Voice Anatomy, viaggio nei mondi della voce, di Pino Insegno. Era il 1996 quando uscì nelle sale uno dei film più graffianti, sporchi e sconvolgenti della cinematografia. Uno spaccato sulle debolezze, anche le più infime, della gioventù di quel periodo, raccontato senza mezzi termini, a tratti ironico, ma immensamente profondo. Oggi, 20 anni dopo, in attesa del sequel, abbiamo la possibilità di ascoltare in studio, dal vivo, la voce originale di Ewan McGregor, Christian Jansante, che ci reciterà lo splendido monologo iniziale e finale di Trainspotting. Signore e signori, a Voice Anatomy, Christian Jansante. Scegliete la vita, scegliete un lavoro, scegliete la famiglia, scegliete un maxi televisore del cazzo, scegliete lavatrici, macchine, lettori CD e apriscatole elettrici. Scegliete la salute, il colesterolo basso e la polizza vita. Scegliete un mutuo a interessi fissi. Scegliete una prima casa. Scegliete gli amici. Scegliete una moda casual e le valigie in tinta. Scegliete un salotto di 3 pezzi a rate e ricopritelo con una stoffa del cazzo. Scegliete il fai da te e chiedetevi chi cacchio siete la domenica mattina. Scegliete di sedervi sul divano a spappolarvi il cervello con i quiz mentre vi ingozzate di schifezze da mangiare. Alla fine scegliete di marcire, di tirare le cuoie in uno squallido ospizio, ridotti a motivo di imbarazzo per gli stronzetti viziati ed egoisti che avete figliato per rimpiazzarvi. Scegliete un futuro, scegliete la vita. Ma perché dovrei fare una cosa così? Io ho scelto di non scegliere la vita. Ho scelto qualcos'altro. Le ragioni? Non ci sono ragioni. Chi ha bisogno di ragioni quando ha l'eroina? Inizio pimpante a Voice Anatomy, grazie Christian. Buongiorno. Davvero, del tuo ritorno, a parte qui non te ne sei mai andato perché sei anche la voce ufficiale già di questa spettacolare radio. Hai aperto tu la trasmissione in sigla, l'hai continuata tu raccontandoci l'inizio e fra un po' il finale di questo pazzesco film che tu hai doppiato 20 anni fa, ma hai utilizzato una voce identica a quella di 20 anni fa. Ci ho provato. No, era. La gente avrà pensato, ma sarà registrato il monologo originale del film. Invece no, era Christian, ed è Christian qui alive in studio, perché poi si parla di questo sequel di Danny Boyle, questo secondo film, dove non so se saranno loro invecchiati di 20 anni nuovi. No, questo lo so. Sono loro invecchiati di 20 anni. C'è stato un problema con Robert Carlyle, poi l'hanno convinto e quindi ci sono tutti gli attori dell'epoca tranne quello che faceva Tommy, perché lui muore in quel film, sì, e quindi sì. Non c'è. Dei 5 rimangono 4, quindi Bagby, Sick Boy, Spud e appunto è un film che veramente ha cambiato le regole del gioco. Ci sono dei momenti importanti nel cinema che cambiano le regole del gioco perché raccontano quello che sta succedendo realmente. La gente si specchia e dice: è vero, sta succedendo questo. Pensa, allora, innanzitutto il film in Inghilterra è uscito a febbraio, da noi uscì ad ottobre perché all'epoca non c'era la rete, quindi non c'erano problemi di diffusione in anticipo. Esatto. Tant'è vero che mi ricordo il giorno dell'inizio del doppiaggio, il 26 agosto del 1996. Chi era il direttore o la direttrice? Francesco Vairano. Ah, il grande Vairano, sì. Era Francesco Vairano, e in realtà sapevamo che era un film che sicuramente avrebbe riscosso successo, se ne parlava, però insomma che poi sarebbe diventato un cult generazionale, questo non lo sapeva nessuno, io per primo. E nella mia storia personale è il film che ha veramente segnato la mia carriera, perché da quel momento in poi ho cominciato a fare i maledetti, tutti i drogati che c'erano in giro. Devo dire la verità, questo insomma lo voglio raccontare, non è un mondo che mi appartiene, anche se a vedermi sembrerebbe strano. Il mondo che mi appartiene è il mondo dell'alcol, che comunque anche quello è uno sballo. Non stai indicando una strada, stai raccontando assolutamente soltanto... No, però siccome qualcuno poi ha cominciato a farmi fare un drogato appresso all'altro. All'ultimo. Dice, vabbè, ormai l'ha fatto uno, li farà bene tutti quanti. E quindi poi c'è stato Johnny Depp in Paura e Delirio a Las Vegas e tanti, tanti altri. Ripeto, in un tutti mondo in borderline. Che in realtà non mi appartiene. Tant'è vero che io, anche Trainspotting, quando poi sono andato a vederlo, cioè non è che l'ho capito tanto. Non era una storia. Non ti specchiavi la te. No, non era la tua realtà. Non era la mia. Non era la nostra realtà. Però esatto. Era lo specchio generazionale di quel momento, di tutti quelli che vivevano borderline, esatto, in un certo modo. Assolutamente. Però esisteva, lui l'ha raccontato benissimo. Poi quel regista si è perso un po', poi si è ritrovato strada facendo. Però bello. Poi tu hai fatto anche altre persone normali. Cioè, non è che Bradley Cooper. Negli ultimi anni ho fatto persone normali. Sì, persone normali. Perché voi dovete vederlo. Insomma, Christian è uno spettacolo quando doppia, perché deve essere solo davanti al leggio, non può avere nessuno, perché lui si muove su 4 metri quadri almeno. Tu non devi. Normalmente davanti al leggio devi stare più o meno fermo, muoverti quel minimo per dare la forza al personaggio che stai doppiando. Invece Cristian c'ha una pista d'atterraggio, c'ha le persone che gli indicano dove finisce lo studio. È uno spettacolo anche vederlo dal vivo. A me piacerebbe moltissimo riprendere i doppiatori e far vedere che il doppiatore fa in piccolo tutto quello che lì fanno in grande, perché devi dargli ovviamente quell'anima anche fisica, perché non basta soltanto la vocalità, anche il corpo. Assolutamente, anche se noi non abbiamo la preoccupazione di fare facce strane, io a volte faccio delle strane delle facce tu allucinate. Sempre allucinato, esatto, che se fossero riprese sarebbero quelle di un attore veramente cane. Sì, è vero, perché sono esagerate. Normalmente al cinema sono i minimi, esatto, sguardi, il minimo cambiamento, esatto, dell'espressione. Tu c'hai un cambiamento che arriva veramente tridimensionali. No, qui mi arrivano già i primi messaggi di grande eccitazione. Mi dicono anche, potremmo avere l'onore di sentire, sì, Roberto Pedicini abbiamo sentito, ma lo riascolteremo, è stato addirittura ospite della prima puntata, sempre un amico abruzzese come il nostro Christian. Poi Dario Penna, sì, Dario Penna assolutamente, sto aspettando che mi dia la sua disponibilità fra un po', subito dopo l'amico Christian, che ho praticamente precettato anche con violenza, ma non c'è stato bisogno di convincerlo più di 5 minuti. Dopo di lui si alternerà su questi microfoni il grande Stefano De Sando, che è una voce importantissima, e poi lo racconteremo insieme. Ci ha accompagnato e ci accompagna veramente in mille puntate di mille serie importanti, e anche Robert De Niro dopo Ferruccio Amendola ha ereditato un bellissimo personaggio. Io e Stefano abbiamo fatto tantissimi film, però devo dire due in particolare degli ultimi anni me le ricordo, e sono Limitless e Il lato positivo. Ah, con Bradley Cooper. E sì, nel lato positivo fa mio padre, che insomma che nella vita non t'avrebbe sopportato, avrebbe venduto subito. Beh, anche perché sarebbe stato un padre un po' troppo giovane, ma questa è la magia del cinema. Dove hai fatto un complimento a De Sando oppure possibile. No, ho fatto un complimento che è troppo giovane, che molto giovane. Lui sta sentendo, perché è di là pronto ad entrare in studio. Credo che abbia 13-14 anni più di me, insomma sarebbe stato un padre precoce, e invece appunto dicevo, nel cinema tutto è possibile, ma è questa anche la cosa bella. Che stai facendo adesso, Christian? Io guarda, a chi stai prestando? Ti posso dire, ti sto facendo mille cose, ma c'è una serie, io la voglio dire sta roba qua, perché poi quando esploderà tu sarai stato il primo ad averlo saputo. C'è una serie di cartoni che si chiama Rick e Morty, che è una sorta di Simpson moderni, dove mi americano? Esatto, con la tua amica Francesca, lo sto facendo, sì. E dove io appunto sono Rick, Morty lo interpreta David Chevalier, e io sono questo scienziato pazzo che ha questo nipotino, sì, stranissimo, che si sposta all'interno di universi paralleli dove succedono delle cose veramente pazzesche. Dove uscirà questa serie? Non ho capito bene, forse non lo sanno neanche loro. Se è Fox, se... Non si è deciso, però siccome in America sta andando benissimo, io penso che anche in Italia avrà un gran successo, perché è una serie intelligente, divertente, naturalmente cartone animato per adulti, sì, però sì, è una delle poche cose che in questo momento mi stanno divertendo tantissimo. E quella è bellissima, infatti qui mi dicono addirittura, ecco, a parte... Allora, caro Pino, sbaglio anche il mio nome, complimenti per la vostra nella trasmissione, ormai compagna della domenica pomeriggio. Oggi avete il grande Christian Jansanti, lo avete elogiato come doppiatore e artista. Io, dal mio punto di vista, lo vorrei invece elogiare per essere un grande maestro e una grande, grande persona, Dino. E questo è bello, ma io sono d'accordo con voi, sapete, perché è un uomo di grande cuore, Christian. A parte la presenza della sua dolce figliolina in studio, che sta con te dall'altra parte, un po' distratta dal telefono, ma comunque... ormai sono è abituato a sentirti. Ma no, ma ormai vivono per i fatti loro, sti ragazzini. Sento la loro musica. In colonna separata, come si dice da noi. Qualcuno mi dice allora di fare, a proposito di cartoni per adulti, sono più di 10 anni che doppio American Dad, sì, Smith, anche con Francesca Traghetti, anche sì, quello. E mi dicono di fare, andiamo proprio sulle radio quelle ormai di quartiere, facciamo i saluti alla festa di mia nipote Marina. Ehi Marina, auguri. Non so come fare la voce di Stan Smith, Marina. Non ci riesce senza il personaggio davanti, però auguri di cuore. Esatto, Pino. Questo va fatto comprendere, che il doppiaggio non si può rifare se non c'è la faccia, sì, del personaggio che t'accompagna. È difficile, a meno che non è uno proprio che parla così. Sì, se no non riesce. Io addirittura come attore, anche facendo teatro eccetera, mi riesce difficile replicare certe emozioni che invece sono state benissimo replicate sulla faccia di quella persona, perché mi ha portato, come dicono i grandi direttori, guarda, l'ha già fatto lui. Sì. Come segui, dico sempre, è un processo imitativo e di il doppiatore riproduce, a differenza dell'attore che crea. Poi ci sono anche attori che creano malissimo e doppiatori che riproducono benissimo. Certo, okay, per carità. Quindi, però sono due cose un po' diverse. Che poi non è un'imitazione, come l'altro giorno mi diceva Riccardo Rossi, fu fermato da un tassista in macchina riconosciuta. Ha fatto: ma tu sei l'imitatore? E ho fatto: no, sono doppiatore. Tu imiti quelle persone. No, non imito, io doppio, ma nello stesso momento traduco, nello stesso momento ovviamente interpreto, perché la cosa complicata è ricordarsi che stai fermo davanti a quel microfono senza fare rumore, perché anche la camicia può fare rumore e devi rifare tutto. Io quattro. Mi tolgo sempre gli spicci, le caramelline, tutto. Io pure la camicia mi sono tolto e purtroppo sotto avevo una canottiera tagliata a mano, per cui l'assistente ha avuto un momento, un conato e si è persa anche il fascino di una voce pure importante lì davanti. Però succede anche questo. Christian, io ti ringrazio davvero, perché questo primo blocco dovevamo aprirlo con te assolutamente, per festeggiare questi 20 anni di questo film epocale. Però grazie prima a voi, che speriamo di essere noi, per noi intendo io, Fabio Boccanera, Roberto Gammino e quelli che avete accompagnati, e Pasquale Anselmo, le voci degli attori che tornano. Ma sicuramente. Ma sai, nel cinema non è sempre tutto scontato. No, questo ci sta. Speriamo. Lo spingeremo da qui anche. Però non chiudiamoci, non te ne vai. Tu hai fatto il monologo d'apertura. Facciamo a questo punto anche con quello dove lui si congeda. Underworld, questa bellissima canzone, una colonna sonora eccezionale. Vai! Perché l'ho fatto? Potrei dare 1 milione di risposte, tutte false. La verità è che sono cattivo. Ma questo cambierà. Io cambierò. È l'ultima volta che faccio cose come questa. Metto la testa a posto, vado avanti, rigo dritto. Scelgo la vita. Già adesso non vedo l'ora. Diventerò esattamente come voi. Il lavoro, la famiglia, il maxi televisore del cazzo, la lavatrice, la macchina, il CD e l'apriscatole elettrico. Buona salute, colesterolo basso, polizza vita, mutuo, prima casa, moda casual, valigie, salotto di 3 pezzi, fai da te, telequiz, schifezze nella pancia, figli, a spasso nel parco, orario d'ufficio, bravo a golf, auto lavata, tanti maglioni, Natale in famiglia, pensione privata, esenzione fiscale. Tirando avanti, lontano dai guai, in attesa del giorno in cui morirai. Beh, brividi davvero, e non ve lo dico tanto per dire. Insomma, sono uno abituato a sentirli e ad amarli. Ma bene, Christian, grazie davvero, veramente grazie. Che buona bello. Prosecuzione. Sì, assolutamente sì. C'è il nostro amico De Sando che si alternerà con te, tuo padre, putativo. Mio papà. Ciao. Va papà. Bene. Buongiorno. Papà. Grazie, Christian. Ciao. Grazie davvero. A tra poco. Voice Anatomy è appena cominciata. Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. Vi presenta Voice Anatomy. Che bello, ecco, avete sentito già lo schiarimento della voce del nostro ospite che abbiamo già annunciato, che ho già annunciato. È un bravissimo attore, non solo un doppiatore, un paroliere e regista teatrale italiano. è noto per essere la voce ufficiale di Robert De Niro, ereditata dal grande e indimenticato Ferruccio Amendola. Di questo ne parleremo, perché è un'eredità importante portata avanti con grande eleganza e con grande personalità. E ovviamente James Gandolfini nel ruolo di Tony Soprano, e poi indimenticabile, a parte Il Trono di Spade, anche lì meraviglioso, il Bryan Cranston di Breaking Bad. Signori, la serie più shakespeariana che il mondo abbia mai assaporato, bellissimo, quello è teatro vero, è teatro vero. Vabbè, ma invece raccontarvi, ce lo facciamo raccontare da lui, caro De Sando, tu che vieni dal teatro, da dove vieni intanto? Adesso da casa sicuramente. Anche sotto la pioggia. Sotto la pioggia. Innanzitutto grazie dell'invito. Grazie a te. La radio magica, Radio 24, sono felice di essere ospite di questa radio, saluto tutti gli ascoltatori ovviamente, come si fa, ma soprattutto in primis rifiuto la paternità di qualunque cosa che riguardi Christian Janzante. Questo che sia chiaro, me ne escludo completamente da qualunque cosa, anzi le nuove leggi dovrebbero prevedere che alcuni ragazzi non andrebbero nemmeno adottati, mentre invece fisicamente no, ma realmente sono stato uno dei grandi promotori di Christian. Tanti anni fa andavo in giro dicendo: ragazzi, ho sentito un ragazzo molto simpatico, quindi questo ruolo di paternità su Christian mi piace un pochettino, sì, la rifiuto ufficialmente, ma cioè, grazie Pino di avermi invitato. È apocrifa questa cosa, è apocrifa. Cioè, l'hai detto ma non l'hai mai pensato, non eri tu, eri stato doppiato da qualcun altro. Arrivano veramente già tantissimi messaggi, non ho detto neanche i numeri, ma ormai li conoscete perfettamente, i vostri sms sono al 349-238-6666, se volete tentare di partecipare in diretta accettiamo anche questo, 800-24-00-24, vi ricordo i nostri social, siamo ovunque, il nostro sito grande e frequentato, perché anche quotidianamente refresciato, come si dice in termine volgare italo-americano, dal nostro Damiano, che è anche coautore insieme a Alessia Navarro, che è capo progetto ed è qui sempre pronto per riprendere i nostri amici e metterli sulla nostra pagina ufficiale Facebook. Il podcast è sempre a vostra disposizione su iTunes. Bene, allora, che bello, uno fa un complimento finalmente col futuro semplice, ha appena usato correttamente il futuro anteriore invece del passato prossimo. Segui, grazie, arrivano anche queste le correzioni. Che fortuna essere stata corteggiata dalla voce di Christian. Beh, questo non so che cosa significa. Christian dall'altra parte del vetro sembra un po' Nemo, perché io leggo le labiali, tu riesci a capire chi è stato a corteggiare. Vabbè, se hai corteggiato grande Christian, per me resterà sempre Will Hunting Matteo. Complimenti, che bello anche il grande De Sando. Vabbè, insomma, tutte cose belle, poi arriverà pure qualcosa di non piacevole, per ora è piacevolissimo. Tu cominci con il teatro, però? Assolutamente. Eccolo là, sentite, no, la falsa stanchezza nella voce, no, del grande De Sando. No, è vera stanchezza. Doveva venire due settimane fa, dove è stato ricoverato. Completamente. È andato una settimana in tournée per gli ospedali italiani, adesso finalmente lo abbiamo qui, santa miseria, ho fatto proprio la corte. No, solo teatro agli inizi, tanta gioia di conoscere bene poi il doppiaggio, al quale mi sono avvicinato dopo gli ultimi anni vissuti nella compagnia con Vittorio Gassman, e inizio ad innamorarmi del doppiaggio da bambino, quando d'estate nelle arene mia madre in un mese mi pagava un biglietto per andare a vedere il cinema, e io altre 20 volte mi mettevo dietro le fratte dell'arena estiva e vedevo un film in un mese, ma ne sentivo 20, perché mettevo dietro, e lì mi sono innamorato delle voci. Da bambino io alle 8:30 fuggivo da casa dopo cena e mi mettevo dietro le fratte a sentire la voce dei doppiatori. Il primo che vedeva il cinema per radio, io vedevo il cinema radiofonicamente, esatto. E lì mi sono innamorato di Carletto Romano, la prima generazione della grande scuola del doppiaggio italiano. Lì mi sono veramente innamorato, mi sono reso conto appunto che dei cinema in effetti ne ho visto poco, ma ne ho sentito tantissimo. Ne ho sentito tantissimo, è bellissimo. E qual è stato lo startup del doppiaggio? Cosa ti ha, essendo tu un attore in quel momento innamorato del doppiaggio, innamorato, chi è stato che tu hai creduto in Janzante, ma chi ha creduto in te? Il grande Mario Maldesi, Mario Maldesi, che mi ha chiamato un giorno in sala dicendo: vorrei sentire, e dopo mezz'ora, interrompendo un turno dove c'era da Oreste Leonello, Oreste Rizzini, due grandi che non ci sono più, ma comunque li cito molto volentieri, una sala piena di grandi attori, Silenzio tutti, sedetevi, tutti seduti da una parte, io da solo a fare un provino che su un campo lungo dove usciva un poliziotto da una macchina. Io dovevo urlare, nell'emozione, nella mia miopia, mi ero dimenticato occhiali, parlavo a raffia senza sapere niente, non vedevo il personaggio, capivo niente, sento una voce da dietro al vetro che mi fa, può venire di qua, grazie? Vado di là e mi ha cacciato dal turno. Così è andata. Questo è stato lo startup. Lo startup è stato essere cacciato da Mario Maldesi con tutti quanti intorno che poi dicevano: no, ma questo ragazzo ha un'intenzione. Cioè, io sparavo vocalità abnormi. Sono quelle cose che io auguro a tutti di prenderle incappucciate all'inizio, perché la cosa migliore lì tiri fuori il carattere, lì si capirà che uomo sarai e come affronterai. Anche a me è successa la stessa cosa in SAS. La prima volta che mi legavano tre anelli, cioè una scena un po' più lunga. Al secondo anello, quello ha chiamato la SAS e ha detto: ma chi l'ha mannata questo? Cioè, insomma, lì ammazzerebbe chiunque, però abbiamo tirato fuori il carattere tutti quanti. Per cui l'inizio teatro, ma accademia, hai fatto teatro, l'accademia? Sì, ringraziando cielo, ho fatto un bellissimo esame all'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica. Sei un attore ufficiale, per cui... No, ho fatto un bellissimo esame, ma la commissione in quegli anni di lotta continua non mi prese perché dice che ero troppo gasmaniano. Come? Sì, ma che significa? Lotta continua? Sì, sì. C'era la commissione di lotta continua nel 73. Ma come l'hai fatta? C'era la commissione di lotta continua all'interno della... Ma grande Orazio Costa Giovangigli, padre di molti attori italiani, e il grande Ruggero Jacobi, direttore dell'Accademia, comunque mi fecero fare l'Accademia come auditore esterno. Ma in effetti io non fui preso per motivi politici. Ma perché c'è politici, non eri, c'era destra, sinistra, non ti sei presentato vestito di nero? No, non mi sono presentato vestito di nero. O azzurro, o giallo. Ma si vede che come primo impatto sono diventato molto antipatico. Sono molto antipatico a quelli di lotta continua. Ma che gestivano loro? C'era una commissione politica all'interno della commissione che non mi fece entrare. Una lottizzazione c'era netta, c'era la DC Rai 1, sì. PS Rai 2, PC Rai 3. È molto divertente. Ma lotta continua sull'Accademia non l'hai mai sentita. È molto divertente perché quell'anno poi furono molti altri colleghi entrarono, ma io e Massimino Ghini non entrammo. Fummo cacciati da lotta continua. Ma pure Massimo Ghini, è stato onorevole. Ma non importa quello onorevole o disonorevole che sia. Non fu disonorevole quel giorno alla nostra prestazione, fu una bellissima prestazione, ma non ci presero a tutti e due. Infatti poi diventammo carissimi amici a noi. Diventare grandi attori, insomma, sì, fin dei conti ce la caviamo, può servire, perché non diciamo che non serve l'Accademia o il centro sperimentale, però è possibile pure riuscire a fare qualcosa. Io e Ciufoli siamo arrivati undicesimi e dodicesimi idonei, ma non ammessi al centro sperimentale. Vabbè, ne prendevano 10. Tu sai che io adoro, va bene così. Adoro Ciufoli, ma io no. Io l'ho sopportato per 40 anni invece. Me l'ha macato lo Stato. Io ho preso proprio una soluzione Empals importante per portare. Gli ho visto perdere i capelli uno a uno. Doveva venire ospite anche lui, ma è peggio di te perché sta in giro, un tournée in teatro per Marciufoli. Ma non è vero, peggio di me, non è vero. Ti ho detto di sì e poi mi sono ammalato. Ammalato, non è vero. Senza voce per una settimana, non hai idea. Senza voce per una settimana vuol dire non pagare mutuo per quel mese. Chissà quanti attori senza voce. Mi mandi grande, a proposito, visto che sta sotto stress il nostro amico, mi metti un boss sotto stress dove c'è il De Niro della situazione? Vai. Guardate che bagagliaio. Ci stanno almeno 3 cadaveri. Scherzavo, cercavo di strammatizzare la situazione. Molto gentile. Aspetti, che automobile ha adesso? Ho una Lexus 430 LS. Insomma, una Toyota. È una Lexus. Sì, Toyota, Lexus, stessa roba, giapponesi, no? Ricordiamoci per Harbour. Parliamo di cose serie, la volete comprare la macchina, sì o no? Ora, senza nulla togliere ovviamente al grande Amendola, che aveva una personalità vocale meravigliosa, veramente poteva farli tutti quanti lui, Stallone, eccetera, ed essere giusto un'eredità importante. Però adesso andiamo un attimo in pubblicità, se non sbaglio, vero Valerio? No, abbiamo ancora due minuti. Saluto Valerio e Gaio, ovviamente. Lì, insomma, è un'eredità importante, ed è la tua vocalità, poi è molto più simile a quella di De Niro, se non sbaglio. Beh, devo dire, innanzitutto, come Giannini su Al Pacino. Innanzitutto devo dire il piacere di citare un maestro come Ferruccio, davanti al quale mi alzo sempre in piedi. Sì. Un equivoco di base è sempre nato dal fatto che mi hanno chiamato come erede di Ferruccio. Io ho iniziato nel 1986, Ferruccio lavorava molto su De Niro in tutti i film, ma per quel film famoso che era Mission, sì, per interpretare un ruolo di un soldataccio di Ventura, che invece poi prenderà i voti, si farà prete. Per quel tipo di personaggio, il grande Fernando Ghia, produttore del film, voleva svocalizzare De Niro dall'identificazione di una voce famosa. Sì. E quindi nasce la ricerca di una voce spiritualmente vicina a una sporcatura particolare. Nasce lì. E nasce nel 1986, quindi io poi ho coabitato con Ferruccio. Poi quando Ferruccio è venuto a mancare, mi è toccata questa grande responsabilità, della quale vado onorato e orgoglioso, e ringrazio sempre le direzioni di doppiaggio che mi affidano il personaggio di De Niro e il grande Bob in persona, che ho ringraziato qualche volta. L'hai conosciuto? Hai avuto il piacere? Abbiamo avuto un servizio fotografico tramite un carissimo amico, che è poi il suo braccio destro, che è Danilo, che è il suo braccio destro italiano e europeo di Bob. Ho avuto un incontro con lui, abbiamo fatto un servizio fotografico. La cosa bella è che mentre andavamo sopra a fare un servizio proprio di 2-3 scatti fotografici, in ascensore lui mi faceva a me speak, speak, speak, e io gli facevo: ah Bob, non hai capito, qua se non spicchi te io non guadagno. Esatto, se tu spicchi, tu spicchi, io te doppio, ma tu sei quello che deve spiccare. E allora il concetto è nato da questo, e quindi più che l'eredità post mortem del grande, no, è nata in anticipo, è nata, certo, in anticipo. Abbiamo coabitato De Niro per molti anni insieme, un po' qualche direzione, qualche distribuzione preferiva Ferruccio, alcune si affidavano anche alla mia vocalità, che era comunque in quegli anni di 10-11 anni più giovane di Bob. Se tu pensi che io in Mission ho detto solo il Padre Nostro sotto a quell'albero. Ma me lo ricordo benissimo. Benissimo, resta con noi, The Sandor, non mi muovo stai qui, non poi mi muovo sanatomi, a tra poco. Voice Anatomy. Bentornati signori miei, siamo in diretta dagli studi di Roma di Radio 24 del Sole 24 Ore, sono le 15.00 e 35 secondi, al mio fianco il grande Stefano De Sando, ma prima di farlo ancora parlare voglio chiedere a Tony Soprano se ha qualcosa da dirmi. È vero che sono stati cinesi a inventare gli spaghetti? Ma riflettici, scusa, come fa un popolo che mangia coi bastoncini a inventare una cosa che si mangia con la forchetta? E sicuramente non sei un'altra cosa. Un mucchio di italoamericani hanno combattuto per questo paese nella seconda guerra mondiale. E certo, nessuno ti racconterà nemmeno di Sacca e Vanzetti. I due anticristo che sono finiti sulla sedia in Massachusetts. Vuoi dire anarchici? E non sono anticristo. Erano due innocenti finiti sulla sedia solo perché erano italiani. Come fanno a esserci due anticristo se c'è un solo Cristo? E che ne so? E non scordare Frank Sinatra. Chi se lo scorda, caro Gandolfini. Allora, parlavo con l'amico Stefano, che non soltanto è ovviamente occupato professionalmente nel mondo del cinema, del teatro, eccetera, eccetera, ma è anche molto impegnato socialmente. Questo mi fa molto piacere. E giustamente vogliamo parlare due minuti di questa tua vita parallela, è importante? È fondamentale, direi. Da molti anni seguo e perseguo lo scopo di portare avanti la nostra Onlus il più possibile. La nostra Onlus, che si chiama Ali di Scorta e si occupa dell'assistenza alle famiglie dei bambini ricoverati nei reparti di oncologia pediatrica dell'Agostino Gemelli di Roma, nonché nella neuropsichiatria, nella neurochirurgia infantile. Abbiamo avuto molti anni fa, durante la giunta Veltroni, l'assegnazione di una casa che andiamo a inaugurare dopodomani, una bellissima casa che Ali di Scorta da molti anni sta ristrutturando, con un grandissimo impegno da parte di tutti i nostri sostenitori. È una Onlus che dietro non ha fondazioni, per cui noi siamo veramente impegnati economicamente liberi, in una maniera molto importante. È una piccola Onlus nella realtà dell'Agostino Gemelli, del grande policlinico, della quale vado particolarmente orgoglioso. Finalmente inauguriamo, dopo tanti sacrifici, dopo tanta lotta, e grazie alla politica, al patrimonio, all'assessorato al patrimonio, e grazie all'assessorato alle politiche sociali, da cui abbiamo avuto appunto l'assegnazione di questa casa, nella quale ufficialmente dopodomani entreranno le prime famiglie che noi prima ospitavamo in provvisori appartamenti. Adesso Ali di Scorta ha la sua casa, è una bellissima, bellissima villa nella quale 11 famiglie potranno trovare l'accoglienza, tutti i comfort che si possono stare vicini avere, ai propri figli, stare vicini, no? Ai propri figli, che nella gestione da parte nostra diamo la possibilità di essere abbastanza vicini alla Agostino Gemelli per poter fare anche avanti e indietro e poter avere la tranquillità e la serenità di seguire questi dolorosi momenti nella vita di ogni persona che trova nello scoprire una malattia, soprattutto in età infantile, trova questo grande dramma nella cui condivisione, già nei reparti, la forte partecipazione dei reparti con l'intelligenza di tutte le strutture che si responsabilizzano da quelli che sono i reparti, dal primario fino al... Sì, conosco... fino alle figure, fino alla FIA, fino sì. a tutte le figure che compendiano l'infermieristica della zona. Basta genitori nelle macchine a dormire aspettando esatto. che si riapra l'ospedale. Non genitori nelle macchine, non genitori sulle poltrone, ma genitori sì. che possono stare in una vicino struttura vicino ai bambini, con l'accoglienza e con tutto il dovuto rispetto che ci vuole in questi momenti dove si ritrova e si deve ritrovare una grande intimità della famiglia. Sì, c'è grande parallelismo questo anche col bambino Gesù, insomma, con assolutamente. Pan, eccetera. Benvenga a tutti. E la nostra piccola Onlus, comunque, con la sua grande, col grande afflato, attualmente vorrei raccontare solamente due piccoli accadimenti che sono stati: uno, l'invito di Patch Adams all'Agostino Gemelli di Roma, il vero medico clown con un happening voluto da Ali di Scorta, che ha avuto un successo enorme, soprattutto quando abbiamo messo sul nostro sito 4 dei più grandi primari dell'Agostino Gemelli dentro un paio di mutande di 2 metri e hanno parlato dentro le mutande di Patch Adams. E beh, così è stata la parte più bella un medico fantastico. Lui è un vero medico. La grande forza della presidenza attualmente, dell'avvocato Rachele Burken e di Silvia Origoni Riccardi, che hanno avuto la perseveranza di mantenere fede da 19 anni a questo grande progetto, e nel quale appunto sono stato votato. Da quest'anno sono il consigliere responsabile. Responsabile consigliere di Ali di Scorta. Ali di Scorta ha un sito nel quale potrete trovare tutte le informazioni, nonché, dato che viviamo appunto, non siamo una fondazione, viviamo solamente della nostra forza, il 5 per 1000, famoso per chi vuole partecipare ad Ali di Scorta. Viva il 5 per 1000 per Ali di Scorta. Vabbè, raccontato con una voce del genere, già hai convinto pure me, per cui t'hanno scelto apposta, così non è facile, ti piace vincere facile. Che belle voci che avete, beati voi, vi invidio un po', una voce bruttissima e mi mangio pure le parole, ma non è importante la bella voce, lo sapete. Sono le belle intenzioni, uno dei motivi per cui non sono scesa in politica, ma no, fai male, proprio quello invece dovrebbe essere giusto, la caratteristica primaria. Bravi, vi ascolto volentieri, eccetera. Complimenti al grande Stefano, va bene, non facciamo autocompiacimento, no, cerchiamo di dare un servizio invece utile, bello, perché lo dico sempre, la voce è l'elemento di comunicazione più importante che c'è al mondo, più di un bellissimo corpo arriva prima la voce. Sì, ma c'è una cosa molto importante, le belle mani non fanno un grande pianista. Le voci belle vanno utilizzate bene. Questa è una mia frase, credo, l'ho detta. Scusami. Questa non è tua. Ero convinto se che fosse mia. L'abbiamo detto, ormai ci siamo sputanati a vicenda, per cui non posso più prenderla. Per cui le voci vanno utilizzate, perché l'uso maligno della voce spesso può essere veramente il male oscuro di questo mondo. In questi giorni proprio qualcuno che concupiva vecchi con le belle voci che vanno in giro a raccogliere, a fare adepti con l'aspetto mellifluo della voce, una cosa vergognosa. L'utilizzo della voce è la cosa importante. La voce in sé per sé è un aiuto, ma l'utilizzo della voce è fondamentale. Perché non doppiati anche i film italiani? No, si è fatto questo. Negli anni si è scritto, è successo anche questo negli anni 70. I Musicarelli, insomma, i più grandi. Pasolini quando doppiava la signora Monica Vitti, che doppiava la protagonista di Pasolini. Secondo Matteo, il protagonista è Enrico Maria Salerno, cioè il cinema italiano ha sempre usato il grande doppiaggio anche l'aereo di biciclette è completamente doppiato da professionisti. Ma ti dirò anche di questo più: questo neorealismo mi fa bello, bellissimo. Perché neorealismo è un'invenzione di chi non sa niente del doppiaggio, perché l'invenzione vera, come Federico Fellini faceva due film, quello che girava in pellicola e quello che doppiava poi in Saria con Mario Maldesi. Perché il doppiaggio, Fellini faceva due film, lo ridoppiava completamente, reinventava, quelli dicevano i numeri. Per cui era facile così. Posso dire anche un'altra cosa? Sì. Questo la sanno in pochi. Ci sono grandi attori italiani del doppiaggio che quando andavano a fare i film come attori venivano doppiati. Sì. Oreste Lionello, Elio Pandolfi. Ma dai, Elio, sì, è bello questo abbinamento. Oreste Ronello è il mio grande Oreste, io adoro. Mia, sì, e quando, faceva, quando glielo ricordavo faceva non me ne parlare, non me ne parlare, incazzato. Sì, perché insomma è la nemesi. Le distribuzioni, sì, ma sono curiosità che comunque chi vuole. Lo faremo poi questo percorso, il grande storico del doppiaggio, e conosciamo il grande vecchio che scrive dei libri sul doppiaggio, che sa veramente tutto. Che fenomeno. E ne parleremo. Io voglio invece tornare al teatro un attimo, visto che lì è la voce per eccellenza. Sì, il doppiaggio è l'unica cosa che vince in sala, ma abbinata a un corpo è fondamentale. E tu hai avuto la possibilità di condividere con Gassman un bel percorso, o sbaglio? Ma sì, più che altro è stato un percorso di grande amicizia, di grande feeling. Lui non sapeva cantare e gli piaceva quando cantavo, quando faceva. Lui amava molto giocare e se lo permetteva quando poteva con le amicizie. Io ho avuto la fortuna anche di interpretare con lui un bellissimo testo di Shakespeare che si chiama Macbeth, guarda caso c'è un film in questi giorni. Macbeth è un testo minore di, sì, questo, testo di Guglielmo. Come si chiama? Guglielmo Scuotilancia. Shakespeare, io ho scritto una commedia insieme a Giuseppe Manfredi. Ah, pensavo insieme a Shakespeare. E ho scritto proprio un testo che si intitolava parlava di Scuotilancia Guglielmo, scritto con Shakespeare. Sì, è come Stefano Meraviglia che è Stevie Wonder, insomma. Stefano Meraviglia, Stevie Wonder. Concettina Girevole che è Tina Turner. Tina Turner. Questo è bellissimo. Bartolomeo Bianchi, Barry White, non farebbero una lira questi in italiano. No, e questo mi fa molto ridere. Infatti nel terzo blocco io il mio amico De Sando ci cimenteremo in una poesia straordinaria tratta da una canzone storica italiana. Ma non anticipiamo. Non diciamo niente. Lasciamo questo brivido, questo sapore. Esatto. Insomma, abbiamo fatto questo Macbeth insieme a. Com'era il grande Vittorio? Io lo amavo di un po' di più nel cinema, pensa. Sono un po' controcorrente? No. Assolutamente. Come molti hanno amato di più alcuni carismatici momenti della sua vita e molti altri di meno. Lui era un attore che poteva stare in maggiore e in minore, ma la grande forza di Vittorio era proprio l'essere un grande maestro. Era un uomo di grande generosità, di grande disponibilità, di grande aiuto, mentre fisicamente, teatralmente poteva risultare, appunto, come dici te, amato più o meno, gigione, un po' troppo, da una foto, da una... una merda. Però poteva fare così. Tra Amleto e il paese dei campanelli, non capisci un cazzo. E poi invece riusciva ad essere asciutto. E poi invece riusciva di gnoti che tartaglia meraviglioso. Con Monicelli un incontro meraviglioso. Io mi sono rivisto il sorpasso pochi giorni fa. Trentignano e lui, uno più bravo dell'altro, fantastico. Questo sottotono di Trentignano davanti a questa esuberanza. Sì. Il maestro era veramente, rimane veramente unico nell'universo teatrale per avere compendiato veramente il teatro dell'Ottocento con la modernità del Novecento. Esatto. Spesso gli riuscivano delle magie teatralmente, a volte era un po' troppo Gassman tra virgolette, ma lui è il grande trade union tra la fine, tra il grande Ricci, Benassi, fine 800 e il 900. Quindi a Gassman va assolutamente riconosciuta la modernità che lui ha portato nel teatro italiano tra i due secoli. Adesso siamo nell'altro secolo oltre, ma vive ancora lui. Secolo lì, perché la grande modernità futurista di Gassman, se vogliamo parlare proprio del passaggio futurista. Ma in cinema, guarda, basta del cinema, quello si recita, guardami com'è. Quei soliti ignoti, quel piccolo tartaglio, come rende unico quel personaggio. Cioè, bisogna veramente far conoscere a queste nuove generazioni da dove veniamo. E perché l'altro giorno, proprio camminando per la strada, autografo, io per curiosità ho detto: ma Tognazzi? Chi è? Manfredi? Con chi gioca? Non me lo puoi fare questo. Allora, tu devi sapere da dove veniamo, e soprattutto sta anche nelle scuole il fatto di ricordare questi grandi. Io voglio che i ragazzi che vanno a teatro adesso, magari vanno all'Argentina, vanno all'Eliseo, eccetera, sappiano chi era Romolo Valli. Non possono non vedere un Pirandello e non capire da chi è stato raccontato perfettamente. Secondo me era l'uomo pirandelliano per eccellenza, ma non è essere l'intelligenza di... Io insomma sono un uomo del popolo, veramente. Dimmi tutto. Romolo Valli, sì. Stanley Kubrick, oh là là. Barry Lyndon, insieme a Giannini, la voce narrante, Romolo Valli, uno dei più grandi grandi performance del doppiaggio mondiale: Romolo Valli, Barry Lyndon, Stanley Kubrick. Ah, non lo sapevo. Romolo Valli è una colonna di portante di questo nostro piccolo mondo. Io ho cominciato ad amare il teatro grazie a quello. Era un copione classe a scuola, all'Eliseo facevano Enrico IV, andiamo vai, meno male, non si faceva a scuola. Ma quella, lì rimasi proprio colpito, affascinato da quel personaggio, dagli applausi alla fine. Ho detto che bello, se fosse questa la mia vita sarebbe fantastico. Ovviamente non la vita uguale a quella di Romolo Valli, sarebbe straordinario, però insomma assaporare quei momenti. E allora io vorrei che nelle scuole veramente succedesse qualcosa del genere, magari una volta al mese ricordare queste figure, vedere un filmato, un documentario su questi personaggi e farli avvicinare alle nuove generazioni. Andiamo al ministero e proponiamoglielo. Sì, no, guarda, ho parlato spessissimo con la signora Giannini, che è venuta anche a teatro ad applaudirmi. Sono molto felice e la vorrei avere una domenica, ma veramente impegnata, ma verrà anche, perché ha una famiglia anche lei che non è qui a Roma, per cui bisogna rispettare anche l'essere umano dietro al ministro in qualche modo. Dobbiamo andare nella pubblicità per l'ultimo blocco, se non sbaglio. Lo so, corre il tempo, invece è lungo, ma sembra che sto tartagliando come adesso è Oreste Lionello. Altri complimenti. E signor De Santo, lei resta con me ancora un altro blocco, non è vero? Ne è vero, sì. Allora, signore, chiudiamo questo blocco con Breaking Bad. O vogliamo aprirci quell'altro? Quanto tempo abbiamo nell'altro blocco per stare insieme? Sto facendo tutto in diretta, ovviamente, no? Facciamo nell'altro, cioè, assaporiamo questo Breaking Bad, perché io l'ho amato, ma non solo io. Tra pochissimo con Stefano De Sando e con Voice Anatomy, il vostro accompagnatore Pino Insegna. Voice Anatomy. Strada in diretta torna fra mezz'ora. Voice Anatomy è già tornato e sempre Stefano De Sando al mio fianco a fare questa bella passeggiata un po' dappertutto, non soltanto nel mondo del doppiaggio, ma quello del teatro, quello dell'associazionismo, dove ricordiamo le ali di scorta essere un... Grazie. Grazie a te. Grazie. Stavo parlando anche di musica. Prima di parlare di musica, di fare questa stupidaggine insieme, io vorrei ascoltarmi un pezzo bello di Breaking Bad con il grande Bryan Cranston. Sì, amore mio, ne hai fatte così tante di cose che restano, per cui non c'è il tormentone tuo. Dio, basta questa cosa, ne hai fatte tante. Perché il Trono di Spade dove lo mettiamo? Vai con Bryan Cranston e Breaking Bad. Ho passato tutta la vita ad avere paura. Paura di disgrazie terribili che potevano accadere oppure no. Per 50 anni ho vissuto nella paura, ritrovandomi sempre sveglio alle 3 del mattino. Ma ora è diverso. Da quando mi hanno diagnosticato il cancro, ho iniziato a dormire bene. Tutti noi, in questa stanza, ci vogliamo bene. Desideriamo il meglio l'uno per l'altro, su questo non c'è dubbio. Quello che voglio io, ciò che desidero, di cui ho bisogno, è poter scegliere. Mamma mia, che bello. Posso dire una cosa che non è piaggeria, ovviamente. Dovete sapere che la Universal ha festeggiato una serata magica Breaking Bad, perché il cofanetto del DVD o Blu-ray di Breaking Bad in Europa è stato più venduto, in Italia è stato quello più venduto, per cui ha fatto una serata importante dedicando da vivo. Cioè, questa è una cosa fantastica. Cioè, sono cose belle da vivo, No, è bello. La Universal che ti chiama per dire: noi dobbiamo fare una serata per Breaking Bad, è molto bello. Non è male. La Universal Picture, quella è mondiale. Ma dai, l'ultima stagione, guardatelo, ragazzi. Perché Breaking Bad ha venduto il cofanetto italiano. È Shakespeare, ha venduto più di qualunque altro cofanetto. Pensa che la prima puntata mia moglie ha detto: non la guardiamo più, mi sembra una cosa. No, e mia moglie non ha più visto. Io mi sono messo lì e sono veramente andato a ruota. Mia moglie mi odia anche per questo. Comunque, lui, Bryan Cranston, fantastico. Breaking Bad, sceneggiatore e regia, dai, urlo proprio. Adesso poi parleremo un po' di musica per i minuti che restano, però io e il grande De Sando vogliamo recitarvi qualcosa e voi dovete indovinare Di cosa si tratta? Insomma, non è difficilissimo, l'avete fatto anche con il trapano elettrico, le istruzioni della lavatrice. 349-238-6666. E io comincerei anche con la musica di sottofondo. Sì, un po' di musica di sottofondo. L'amico Damiano ci sta riprendendo, andrà sul sito. Pensate che figura che facciamo. Comincia tutti. Io? Vai, vado io, vai, volevo che tu rompessi ghiaccio. Come? No, io rompo qualcos'altro, vai. Andava a piedi nudi per la strada. Mi vide come un'ombra, mi seguì, col viso in alto di chi il mondo sfida e tiene ai piedi un uomo come un sì. Nel cuore aveva un volo di gabbiani, ma un corpo di chi ha detto troppi sì. Negli occhi la paura del domani. Come un ragazzo me ne innamorai. La notte, perché c'è scritto notte, la notte lei dormiva sul mio petto, c'è scritto notte, sì, sì. Sentivo il suo respiro su di me e poi mi dava i calci dentro il letto. C'è ancora il suo sapore qui con me. Anima mia, torna a casa tua. Ti aspetterò, dovessi odiare queste mura. Anima mia, nella stanza tua c'è ancora il letto come l'hai lasciato tu. Avrei soltanto voglia di sapere, non cercarmi, che fine ha fatto e chi sta con lei, non pensarmi. Se sente ancora freddo nella notte, se ha sciolto i suoi capelli oppure no. Marina. Oddio, è bellissimo. Ci voleva così. Sì, così, famole tutte in così. No, famo una trasmissione solo dei poesie. Finire una carriera è De San. Salutiamo la carriera di De San. Veramente, salutiamo la carriera pure di Pino Segno. No, ma te sono un po' più abituati. Dio mio, se pensi che io ho un festival di poesia. Ma come Capaldi, i Pù? Ma come i Pù? I cugini di campagna sono questi. Ma dai, no, ho già salutato tua nipote Marina come Stan Smith. Quanto ho salutato tutta la trasmissione? Basta. No, i Pooh, non dite ancora, non l'hai detto, l'hai detto un po' tu. Ah, scusami. Questa settimana è stata inaugurata, è vero, mi sono dimenticato. Viale Oreste Lionello a Villa Borghese. Grande, grande, bene. Grande, grande. Ma vivo Oreste Lionello. Via Nazionale, ma perché se levano sti nomi inutili e si mettono i nomi? Cioè, stanno certi nomi, via per il Quinterfrunculo, benefattore. Certo. De che? Mettiamo sti nomi. Va bene. Via Federico Fellini, no? Vi avete tenuto quel pezzettino soltanto, piazza Federico Fellini. Va bene. Che bello, grazie Pino di avermi fatto questa bellissima figura, di avermi fatto fare questa... I cugini di Campania. Bravi, bravi. Anima mia e non soltanto sua. Bene, bene. Di musica voglio parlare in questi ultimi minuti, mi dicevi. No, io sono già gli ultimi minuti. Sì, siamo già arrivati. Beh, perfetto, il tuo intervento grazie. Fra 6 minuti e mezzo. Grande, sono molto, sono molto felice di essere stato ospite qua. Saluto tutti gli ascoltatori, vado aspetta, via. Aspetta, ah, no, 6 minuti e mezzo. Allora, 6 minuti e mezzo con tutto quello che devi di te, io non posso dire più niente. Non devo dire più niente. Ah, più niente, io ti guardo in faccia e basta. Tu sei un musicista? Sì, no, io mi chiamo strimpellautore, che è una cosa diversa da cantautore. Io sono strimpellautore, scrivo canzoni, ho avuto la fortuna di incontrare dei grandi nomi che si sono anche avvalsi della mia umile partecipazione, tra i quali saluto la signora Ornella Vanoni sempre. Ah, ma sta gente così. Sì. Hai scritto, io perché non tutto so? Un album per Ornello scritto. Vabbè, comunque sia. Io sono amico tuo da tanti bello, anni, da tanti mi tieni nascoste queste cose. Tutte. Ma la cosa più bella è che per mantenere fede, poi ultimamente ho avuto un incontro con i Toto. Tu conosci Toto? Toto Cotugno? No, non è Toto Totò? Cotugno. Non è Totò e non è I Toto Fratelli Cotugno. Porcaro, come I fa? Fratelli Porcaro, beh, di cui sono venuti a mancare purtroppo. Sì, sì. Infatti. E ho avuto la fortuna con dei talenti musicali che ho scoperto in questi ultimi tempi di incontrare anche, di avere un incontro con loro e di portare avanti, di perseguire un lavoro anche insieme con i Toto, con in inglese? No, in inglese, tutto quanto per diciamo, arrangiamenti di canzoni fatte qui in Italia da artisti che seguo in questo periodo. Che me, ma voglio i nomi, perdono, stiamo anche in radio. Faremo un'altra trasmissione. Ma quello sicuramente, amico mio, però tu mi stai aprendo un mondo. E poi e Toto, quindi, Africa. Africa. Troviamo una cosa di Toto, Valerio. Fai i tecnici del suono, fa il tecnico, quelli veri, che come uno dice una parola, entrano subito a tempo. Oh, lui è preoccupato solo della sua squadra del cuore, e qui soltanto quando gioca il giorno prima o la sera. Chi è la squadra del cuore? Indovina, la squadra opposta alla mia. Ah, vabbè. Vabbè, ma siamo in una società società multilaziale, per sì, cui infatti, mi accettano volentieri, insomma, sono come loro. E poi meno male che la domenica sono distratto. Allora ti sto dicendo degli, dimmi. Ti sto dicendo degli, io come strimpellautore, e questo va bene, scrivo, scribacchio canzoni eccetera, ma da un po' di tempo, e da 5-6 anni abbiamo inventato proprio una maniera molto salottiera di stare insieme a degli artisti che sono del settore e non del settore, tra cui un grande prof universitario con il quale io gestisco degli incontri musicali che adesso si trasferiranno che si trasferirà al posto che farli dentro casa, dove abbiamo visto che a una certa ora poi arrivano i carabinieri, per cui dovevamo certo. Adesso abbiamo inventato ma io sono De Sandro, Robert De Niro, non me rompete. Ehi, tu sei bravo, accidenti, tu sei bravo, vi insegno, più bravo di tutti. Allora abbiamo deciso, adesso abbiamo inventato un logo, un marchio che si chiama Apple Sing Apple Play. Apple Play. Che cosa vuol dire? Felice canzone Apple Sing Apple Play. Dimmelo. Me la canto e me la sono. La Apple Sing Apple Play. Ti stai lamentando di anima mia dei cugini di campagna che non volevi. Comunque attenzione adesso, che Valerio attenzione, ci ha dato lo smacco. Silenzio. Vai un detto, vai, entra. Grandi. Anche grande America proprio nell'intro e vabbè. Adesso nell'Apple Single Apple Play elegante me la so, che questo è ormai un logo internazionale, è il nostro logo oramai. L'Apple Single Apple Play di cui Apple un po' di Beatles, esatto, detto, c'è anche un po' di roba dei computer, c'è tutto l'Apple Single Apple Play è molto carina come è bello. Ed è diventa praticamente un incontro al posto di farlo dentro casa dove poi arriva qualcuno, e abbiamo inventato un posto, un luogo deputato, e lo faremo solo anche questo, solo per no profit. Quindi chiunque vorrà venire ad esprimersi, no profit, parteciperà alle nostre posso serate. Venire. Devi venire come vuoi, ma fa? Soprattutto deve venire chi arriverà. Stiamo qui a parlare romano perché me la canto e me la sono mai fatto diventare romano. Vedi, uno per radio che va in tutta Italia cerca di essere. È vero, però l'idea di Apple Sing Apple Play è il nostro. Ma soprattutto marchio. Perché leghi professionisti. Noi fra un po' avremo. Noi leghiamo professionisti e non. Avremo operazione. Una grandissima professionista che è Eleonora Bruni, che ci parlerà di voce estrema e quant'altro. Subito dopo c'è Alex Britti. Grande. Che ci grande. Raggiunge con la sua chitarra, l'ho incastrato fra un buco e l'altro della tournée, visto che siamo amici da bambini, perché dello stesso quartiere. Io mi alzo in piedi anche davanti a Alex Britti, più grande chitarrista del mondo. Lui ci parla, a casa sono entrato c'era solo chitarra, anche al bar, cioè qualsiasi cosa c'è una chitarra. Grande. Ma è veramente poi persona fantastica. Delizioso, devo dire. Veramente. E insomma questa devi tornare perché fra un minuto ti devo salutare. Va bene, ma noi ci salutiamo, io saluto ma tutti gli ascoltatori. Sì, ma ci avrai dei dischi, no, adesso cittine, per adesso sto preparando tutto quanto con questi talenti con i quali collaboro, e devo dire tutto quanto anche per merito di una mia grande amica e la più grande per me autrice, di cui anche mia editrice, che si chiama Mariella Nava, che è la più grande autrice, un'altra ragazza con la quale partecipo, che è veramente la donna che scrive le canzoni più belle. Ma tu sei peggio del Breaking Bad e Brian, c'è una vita parallela terrifica, quello professore di chimica, un venditore di droghe. Io invece sono fatto già di mio, non ho bisogno di niente. Io con un mezzo bicchiere di rosso già vado per. Deve sapere che il grande Alessandro in sala è come Gandolfini, ti chiama da 200 metri e tu devi accorrere in sua presenza e salutare. Stata volta alla Fono Roma, sentì in un corridoio Pino lontano, anzi, ma tutto è desando, sta per morire o mi vuole salutare, fammi andare. Sono andato, era seduto su questa poltrona e mi ha salutato, come va? E mi ha fatto fare 300 metri per dirmi come va. Questo è il grande io Stefano, ti ringrazio veramente, ti ringrazio di questa partecipazione a Voice Anatomy, e sono felice di essere stato qui. No, saluto tutto il pubblico, però è un appuntamento che vorrei fare più musicale. Vai. Chitarra alla mano, se è possibile tornare a trovarti, mi farebbe piacere. Così questo lato B della mia vita, lato B della mia vita è bello, detto così è bello, il lato B della mia vita almeno te lo scioriniamo, lo strimpellautore. In bocca al lupo per tutto, crepi Stefano, tutto, crepi sempre, saluti tutto. A tutti, un abbraccio, grazie Pino, grazie a te, a voi. Grazie. Torniamo, grazie, torniamo tra poco, voi sanatomi, grazie. Radio 24, Sky 1 e RDS ti aspettano per le selezioni di RDS Academy, l'unico format TV che ti apre le porte del mondo della radio. Invia ora il tuo provino tramite l'app o su radio24.it. Voice Anatomy. Eccoci, 15:31 primi, 56 secondi. Abbiamo salutato Stefano De Sando e accogliamo come sempre la nostra trasmissione che è declinata in tutte le sue forme. La voce mi ha raggiunto anche Cristian Ianzante. Ma sì, perché io in realtà non sono mai andato via. No, è vero, è sempre rimasto. Anche perché questa, insomma, è pure è la mia radio. È la radio. Non ce lo scordiamo. Volevo fare io Radio 24, invece no, no. GR 24. Il sole 24 ore. Cioè ogni ora sta storia da 12 anni. Nessuno te la può togliere. Ci ha raggiunto però Eleonora Bruni, che ha un curriculum vitae incredibile. Cantante, insegnante di canto e tecnica vocale, esperta in vocologia artistica, didatta per la vocalità estrema, premio Vocologia Artistica 2009 con la tesi Voce e Margini, anche un premio Demetrio Stratos, che noi abbiamo fatto una puntata bellissima nel con 96, l'amico, sì. Nel 96 l'ha venduto, proprio 20, tutto 20 anni fa, cioè come Trainspotting dell'inizio, con il grande Diego Cossu, che avremo sicuramente ancora ospite, è la voce della Lato Orchestra. Iato, scusami, la L maiuscola, è sembra vero, è lei maiuscola, lei. Quale, scusami, Iato, perché giustamente sono poi le cose più difficili nel doppiaggio, gli incontri fra le vocali, sì. Pronunciarle, dobbiamo sempre rifarle 4-5.000 volte la stessa frase. Insomma, hai fatto tantissime cose, soprattutto di ricerca, e da anni proprio ti occupi di elaborare una specifica didattica nella vocalità estrema. Sì, che è. Questo è venuto pure lui, perché lo mettiamo in pratica. Lo mettiamo in pratica. Ma sì, tu sei un insegnante, anche se sei una cantante lo sai fare anche tu. E i suoni sporchi, i graffiati, il growl, l'urlo proprio, lo scream, l'urlo. E quello è affascinante, perché bisogna saperlo usare bene la voce, altrimenti con uno strappo le corde vocali fanno bingo e se ne vanno. E poi è un gran problema. Quello che diceva prima Stefano, ed è verissimo, la voce va usata bene. Lui lo diceva in un senso molto ampio, ma è vero che va usata bene anche dal punto di vista tecnico, perché altrimenti non riusciamo poi ad avere il risultato che vogliamo ottenere dal punto di vista artistico. È uno strumento, no? È uno strumento. Io ho questo... Affiato. È uno strumento affiato, corda, sì, affiato. Per me è affiato. Affiato, so. Assolutamente. Che dici, affiato, affiato o a corda? Ma una volta mi ricordo che si parlava di corde vocali, un ragazzo della scuola disse... Ma non so sei le corde vocali. Vabbè, ma ti è andata bene. A me mi hanno detto 12. È la chitarra. A me mi hanno detto 12, una per ogni semitono. Lo chiediamo dopo Alex Britti. A me 12 corde vocali non 12, sarebbe male. Un'arpa, nella laringe. Mi sono spogliati i messaggi. Siete forti, vi ascolto. Grazie Gianni, come tante altre persone che ci vogliono bene. Cerchiamo di farvi compagnia. Dove insegni a proposito di questo cognome, allora, che a me è molto familiare? No, vabbè. Ho il grande onore di insegnare nel master in vocologia artistica dell'Università di Bologna, la sede però è quella di Ravenna, sotto la direzione dei grandi mentori Fussi, Franco Fussi e Silvia Magnani, che sono stati poi la parte fondamentale, insomma, per la mia formazione, almeno per quella più teorica, tecnica. Il tuo sommovate è Demetrio Stratos in qualche modo? Lo è assolutamente, insieme a moltissimi altri riferimenti, ma una delle cose fondamentali che lui ci ha lasciato appunto è l'idea che si possa sperimentare tanto, anche in modo molto ardito, sapendo che in fondo sono tecniche che si possono imparare. Poi una volta che le abbiamo imparate diventano qualcosa che noi rendiamo assolutamente naturale, corporeo, e che possiamo utilizzare in ambito artistico. Come possiamo riscaldare la voce nel modo migliore? Ma questo voicecraft è buono? Il voicecraft è uno dei molti metodi. Lo stretching delle corde vocali. Lo stretching delle corde vocali, sì, lo facciamo sempre, facciamo un riscaldamento, mettiamo in moto il respiro, ma ci sono milioni di metodi su questo. Ma in genere partiamo da dei trilli. Attenzione, non è l'allarme della porta che è scattata, ma la nostra amica. E anche gli humming. Fino al fry, tutte quelle l'esorcista. Cose. L'esorcista. Sì. Beh, tutto bello questa cosa, no? Io faccio finta di niente, perché sono soltanto un presentatore qui, uno che vi accompagna, ovviamente. Sono sempre affascinato e lo studio costantemente tutto questo, ma per i nostri amici è fondamentale. Dovrebbero metterlo nelle scuole, l'urlo ogni puntata. Assolutamente. Non dico dalle elementari, ma dalle medie. Assolutamente. La voce, come ma utilizzarla. Guarda, dovrebbe far parte della nostra cultura a ogni livello e dovrebbe essere parte anche della cultura per le maestre e per gli insegnanti. Molto sì. Spesso troviamo voci che non ti fanno amare quello che tu stai studiando. Se un bravo professore italiano ci insegnasse la poesia nel modo giusto, sì. Non dico deve essere un attore consumato, ma fartela amare tanto con i racconti giusti intorno a quella poesia e con la voce giusta. E con la voce giusta. Dai, ma tu, la voce è un veicolo straordinario. Abbiamo studiato anche i politici, è venuto un altro sì. Esperto che ci ha fatto sentire dei file straordinari, togliendo le consonanti c'era un diagramma vocale che ti faceva capire dove stava andando e perché lo stavi ascoltando o perché invece ti stava solo disturbando. Ma certo, perché poi le ricadute del suono sono estremamente ampie, riguardano... Soltanto il 6% si da uno studio è l'attenzione per i contenuti, il resto si divide fra corpo e voce, per cui pensate un po' quanto è importante. Che cos'è questa vocalità estrema, Leonore? La vocalità estrema è lo studio di tutto ciò che viene emesso non con le corde vocali propriamente dette, quindi non con la voce convenzionalmente intesa, questo è un suono emesso con le corde vocali, ma se io faccio... A me fa paura. Fa abbastanza paura, non però è molto... Non sono le corde vocali queste. Non sono le corde vocali, sono le false strutture, sono le false corde, le aritenoidi, quindi sono quelle strutture le che aritenoidi, sono... Le aritenoidi, diciamole bene queste sopra, cose, perché poi sì. Abbiamo un pubblico molto attento. Le aritenoidi, se qualcuno ha mai visto l'immagine delle corde vocali, adesso si possono trovare, tu insomma... Tu l'hai viste? Sì. Ma io ho visto le mie perché da ignorante una mattina di tanti anni fa... Arrivando al turno così a freddo, mi ricordo era un episodio di Aladino, cartoni animati, mi sono fatto molto male, è venuto un bel nodulo, sono stato due mesi a fa miu con l'elettrostimolatore qui per cercare di riassorbire il nodulo, che poi in realtà non va mai via, no? Perché quello è un po' un calletto che rimane lì. Sì, diciamo che viene un punto di precontatto, sì. In cui poi le corde vocali vanno a toccare prima dell'adduzione regolare. Mi dicevi di quest'altra cosa delle aritenoidi? Come si chiama? Le aritenoidi, appunto, se abbiamo visto l'immagine. Sono aritenoidi di nuovo. Sono quelle due pallette alla fine delle corde vocali, se così ecco. Le vogliamo definire, quelli chiamiamole che sembrano così. I cardini della porta e che hanno in realtà la capacità di produrre suono a loro volta. La cosa interessante è che appunto lavorando ci siamo resi conto che possiamo ottenere questi suoni salvaguardando però le corde vere, perché come appunto ci siamo appena detti il rischio del danno vocale poi è dietro l'angolo. Basta uno strillo fatto male, soprattutto quando cerchiamo volumi e intensità e anche atteggiamenti magari emotivamente molto in una molto discoteca tu urli un amico finisce la discoteca urla. Dice perché sto senza voce perché utilizzi sì, in gola assolutamente. O un gol strappato, a me non mi succede molto mai perché tu segna anche, poco la mia anche squadra, il cantante normale che certo, canta bene da tecnica si danneggia nella voce parlata. Diciamo che 10 minuti di vocalizzi la mattina sarebbero, toglie il medico di turno, sarebbero utili, non dico obbligatori per noi, ma sì. Utili. Sì. Perché poi veramente sì. Noi a volte arriviamo e così a freddo dobbiamo urlare perché già la prima scena è estrema, certo. E senza un adeguato riscaldamento poi si rischia, sì, come uno sportivo danni. Insomma poi comincia a fare una gara senza aver fatto lo stretching giusto, il riscaldamento giusto. Ma un buon riscaldamento per la voce è un riscaldamento vocale e anche un riscaldamento corporeo. In realtà la voce certo. È corpo, insomma, sì. Lo dicevi prima, come dicevi, neanche nel doppiaggio bisogna è stare corpo, fermi certo. Ed è una grande limitazione certo. In realtà. Un buon riscaldamento ci mette al sicuro, ci permette di avere una giornata. Ma un coaching, efficace. Un preparatore, un tecnico come hanno le squadre di calcio, cioè hanno il preparatore atletico e poi l'allenatore, no? Certo. Avere il direttore di doppiaggio o il regista se stai su un set e il vocal coaching... che ti insegna non a dirle ma a riscaldare la voce, insomma questa vocalità estrema tu hai fatto il tuo mood, nel senso che la tua specializzazione, sei una cantante sì, e ovviamente sì, certo. La usi in tutti i modi, però questa cosa della vocalità estrema mi ha molto incuriosito perché immaginavo che lo scream, l'urlo, però la gestione delle corde è vocali è la gestione che ci chiede appunto di elaborare dei percorsi che ci portino a questi suoni in sicurezza. E farlo in maniera istintiva può condurci a dei meravigliosi risultati, però ci conduce anche a un rischio di danno vocale reale. E in realtà è qualcosa che viene richiesto moltissimo, al di là dei generi che sembrerebbero essere quelli più adeguati. Pensiamo al metal, esatto, nel death il metal, il famoso rock. Esatto, come il growl, fanno lo non scream. Perdere la voce questa. Questa cosa qui esatto. Viene messa in allontano, se no. Per un attimo era fra John Bon Jovi, Metallica, Pearl Jam. No, i Pearl Jam sono più leggeri. Ecco, la cosa interessante è che questo Nightwish strepitosi. Fantastico. Sì, sentite, un gothic rock fantastico. Non è il rock che pensate voi, ma è proprio sinfonico. È pazzesco. Sinfonico, è vocalmente è quasi lirico. È lirico. Assolutamente. Infatti, le cantanti dei Nightwish si sono alternate prima. E sono tutte cantanti liriche e il chitarrista, il leader, e poi quando strappa c'è un fantasma del parco dell'opera. Sì, mamma mia, fantastico. Fantastico. Se il nostro tecnico fosse più attento, starebbe a cercare Nightwish Phantom of the Opera. E invece sta, non so, vedendo i risultati delle partite. Vabbè, lasciamo stare. Veramente stanco di questa situazione. Ma comunque parlerò a chi di dovere a Radio 24. E per cui non potresti dire con una voce molto arrabbiata, per esempio. Com'è Ian Sante? Valerio! Come la sta usando adesso? Valerio! Ecco, attenzione. Concentrati! Ecco. Bravissimo, naturalmente bravissimo. Quello che noi impariamo è a emettere questi suoni utilizzando meno possibile le corde vere. Come te ne accorgi che non sono le corde vere? Ce ne siamo accorti facendo un grosso lavoro di studio. Io in questo ho avuto la fortuna di avere delle meravigliose collaborazioni, inizialmente con un mio ex allievo che è un cantante di death metal che faceva growl. Di death metal? Death metal, assolutamente. Metallo morto. Mamma mia. E che è un genere in realtà interessantissimo, perché con la voce fanno delle cose di grande, grande difficoltà. E abbiamo cominciato a indagare. Lui si chiama Enrico Di Lorenzo, è il cantante degli Idios Divinity. Abbiamo cominciato insieme ad indagare. Il cognome di mia zia, non so se siamo parenti. Ah, sì? Anche mia nonna si chiamava Di Lorenzo. Maurizio Arena, il nome vero era Di Lorenzo, era mio zio. E Rossana Di Lorenzo, la prima Erminia dei film dei sordi, è mia zia, che ho avuto il piacere di sentire per telefono la scorsa settimana. Ma a parte questo, magari è un parente questo death metal. Magari siete parenti e c'è questa linea. E abbiamo cominciato a indagare insieme appunto come fosse possibile emettere per anni questi suoni mantenendo poi una voce assolutamente regolare. Ma anche evitando tipo corditi, sta roba. Evitando assolutamente molto, che poi durano anche tanto. Sì, no, quelli poi sono danni difficili da gestire, soprattutto per chi poi come noi fa un lavoro in cui l'uso della voce è richiesto. Esatto. E attenzione, non ne attenzione. Questo è Gothic Rock, signori. Sentite quella chitarra elettrica come entra qua. Ancora no. E sale. Allora quando mi bellissima. Lascia la mano, cosa dobbiamo andare in pubblicità? Ragazzi, è un'avventura nella voce e nella musica fantastica. Grazie, l'onore non te ne andare, tu rimani con noi. Andiamo un attimo in pubblicità per un minuto e torniamo subito, ma alzami un attimo la base prima di andare. Non puoi andare in pubblicità così, dai! Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. Vi presenta... Voice Anatomy. Vi prometto che Eleonora Bruni... che Voice Anatomy. Attenzio, ce l'abbiamo qui in studio, è pazzesco, potevamo anche evitare di metterla alla sigla. Eleonora, prometto che tornerai. Questo era un modo per conoscerci, stare insieme un paio di blocchi. Tu insegni soltanto laggiù oppure lassù? No, vieni anche a Roma? Insegno a Roma. Roma. Dove? Ho un mio studio in zona Casilina. Uno studio, però sa di medico, io non voglio. È vero, in realtà è l'antro delle meraviglie. Oh, l'antro delle meraviglie, sto andando nell'antro delle meraviglie di Eleonora Bruni. Oddio, può anche essere preso da una moglie, dice, dove andiamo io e Cristia? Nell'antro delle meraviglie. Rischiamo veramente un avvocato. Mi sta incuriosendo questo suo mestiere. È bella questa cosa, invece. Un'esperienza la farei. Che poi tu stai facendo tante belle esperienze. L'altro dell'umiltà di un grande professionista, è bello saper ricominciare in tutte queste direzioni. Perché questo mestiere è un mestiere che è proprio in divenire, cioè lo continui ad imparare, per carità, lo puoi anche insegnare, perché siamo arrivati a un livello in cui possiamo farlo, ma continua ad imparare, l'umiltà di ricominciare ogni volta. Ah sì, no. La cosa fondamentale è che non si smette di studiare mai. Quest'antro delle meraviglie dove ce l'hai? Quest'antro delle meraviglie ce l'ho in zona Casilina, Torre Maura. Beh, non è vicinissimo, non però è vicinissimo. È vicino casa mia, invece. Ah, vicino casa tua. Non è molto lontano. Però è bello. Bene. Attore, perché attore Maura, attore, perché uno fa l'attore, allora no. Questa è una stronzata. Vabbè. Se n'è andato Valerio, Allora, ciao, ti ascoltavo in auto mentre scendevo dalla montagna. Pensa che bello. La frequenza non era molto buona, ma come mai si sente solo Radio Maria? Chiedilo al Vaticano, non lo so. Sono un insegnante in pensione e vi confermo che la voce funziona con il suo uso sapiente. Sono sempre riuscito a gestire la grande bimbi di ogni tipo. Brava Gabri, brava. Iansante ci dice il traffico sulle strade come un porco sensuale. Ma come? Come lo dici questo? Strade in diretta. È vero, ha ragione. Sembrano delle strade dove potete appartarvi sinceramente con la vostra dolce metà. A proposito di voce, non è giusta dirla così. Ma scusami, però, all'epoca. Però ti incammini con più piacere. C'è traffico, ma te ne freghi. Dici. Allora, all'epoca, quando io ho cominciato ad essere la voce di questa radio, appena vita, sì, c'era un direttore, si chiama Giancarlo Santalmassi, che mi disse: ragazzi, devi fare tutte uguali e anonime. Il problema, ma che io non ci riesco proprio ad essere anonimo, e le ho fatte così come sono venute, poi sentite in onda, effettivamente alcune andrebbero rifatte, ma anche GR24 ore rifatte non me la fanno rifare, piace così, va bene così, e mi vietano di rifarle magari in una maniera, ripeto, forse un po' più anonimo, ma più neutra. Non sarò mai neutro, no, no. Non c'è niente. Meno male che non dici però il traffico normalmente, che ne so, sulla Casilina c'è una coda di 2 chilometri, ma fregatevene, fate l'amore, cioè nel frattempo, ma dai. Il primo cantante degli Iron Maiden si è completamente rovinato la voce. Vabbè, quello dipende pure da che cosa fa, oltretutto, parte, perché questi cantanti, insomma, bisogna non solo vedere cosa fanno nella esatto, vita, perché, nelle insomma, loro sere. Cosa si fanno, anche non voglio dire niente droga, a lui, insomma, non aiuta, non, ecco, aiuta, no, no, quello sì, assolutamente dire. No, Cristian, delle esperienze ci parleresti del tuo corso di doppiaggio Roberto Vecini? Vabbè, questo lo parleremo un altro momento, non è questa la sede. Adesso io e Pino il Segugio, c'è una nostra amica Francesca che ha un cane che si chiama Pino, ma non so se un collega l'ha chiamato così apposta oppure no, però sono molto carini che ci seguono sempre. Cara Eleonora, stanno tante cose, questa voce estrema mi piace tantissimo. Quale utilità può avere la conoscenza della vocalità estrema nel percorso artistico di un professionista della voce? Una cosa che abbiamo proprio rilevato sul campo è che lo studio del training proprio per arrivare a emettere suoni estremi in sicurezza, in realtà, al di là del suono estremo, che poi può essere più o meno utilizzato per creare anche effetti di graffiato, di sporcature, in realtà produce un effetto assolutamente positivo anche nella gestione della voce cosiddetta normale, insomma di quelli che noi chiamiamo i meccanismi legittimi, quindi nella voce parlata, nel cantato, nel vedi passaggio che bella di registro. Voce pulita che ha, no? La senti che non sforza assolutamente niente, pulita, cristallina. Non fumi, non bevi. Non fumo, bevo. Sì, bevo? Certo. Brava, ma quanto? Sì. No, brava. Io non tanto, ma parlavo prima di alcol con Ianzante, abbiamo aperto la trasmissione sbandierando Trainspotting e tanto appunto di droghe, ma insomma non è no, ovviamente. No, sono ovviamente un ubriacone, però insomma gradisco. No, non fumo, non ho mai fumato, quello no. E però insomma ci siamo resi conto proprio di come lavorare su questi temi può in realtà migliorare la capacità di propriocezione, di controllo dell'apparato fonatorio. Abbiamo fatto con Franco Fussi uno studio meraviglioso, anche insieme alla mia collega Biavati, che invece Erika Biavati si occupa di fischio laringeo. Beh, che è un'altra cosa. Che il fischio laringeo? Il fischio laringeo è quel suonino iperacuto che per esempio noi sentiamo in Mariah Carey. Ah, e come? Questo, lì, cioè, tipo, in pratica... Tipo, le... si riesce a farlo. Sono curioso. No, si è staccata dal microfono. Va tutto bene. Questi suonini qui. Questo è veramente difficile. No, è impossibile. Qui le corde vocali. Senti che cosa a me. Valerio, le uniche cose che trovi sono cose stupide che perdono anche. Fai beh, ci sono ospiti questa la usa, il giro del mondo. Ma questa la usa da Cruciani quando telefona qualcuno un po' barzotto. Allora gli dico, ti mandiamo l'ambulanza. Sì, ma questa la trova subito. Dice un pezzo importante, ci mette 12 anni. Vabbè, insomma, non è carino questa cosa. Quello era un fischio laringeo. Che cosa si utilizza lì, perdonami? Le corde vocali vere. Questo caso, che però si bloccano sostanzialmente. Passa non l'aria, vibrano più, non vibra più, un passa e rimane l'aria. Una sorta di piccolissimo buchino, come un'ancia doppia, e produce... Ma sai come quando da bambini, io ho una certa età e da bambina lo facevo, si soffiava fra le foglie. Certo, sì, che fa quel fischio. Produce quel fischio acutissimo. Però devi stare attento, perché se sbagli e vibrano all'improvviso ti si strappano, esattamente, vero? Esattamente, il problema è proprio questo, cioè bisogna saperli gestire i meccanismi estremi, perché se io mettessi lo stesso tipo di atteggiamento fonatorio che ho per fare, per esempio, un suono lirico come quelli che abbiamo sentito, certo, prima, o insomma un suono cosiddetto normale, avrei una pressione eccessiva per, certo, quel tipo di situazione cordale. Altrettanto, per arrivare a questo c'è un allenamento. C'è un allenamento, c'è un training specifico proprio per arrivare a questi suoni. Altrettanto, se io utilizzassi le corde vocali vere andando a stringere moltissimo in questo modo, rischio di farmi male. Se tu farai la medium un giorno, tu avrai un successo pazzesco, perché sicuramente è l'una delle poche che riuscirà a bleffare veramente per avere qualche altra diventi bipolare. Però è una cosa bellissima. Tu parlavi di propriocezione, io credo di sì. Cioè, ti fa stare meglio la gestione del tuo corpo in tutte le sue dimensioni. Uno dovrebbe conoscere tutti gli angoli del proprio corpo e dargli vita, perché sono degli angoli dimenticati. Ed è brutto dimenticare un gomito. Sì, ascoltarli, sentirli, lasciarli. E se un uomo riuscisse ad ascoltare le vibrazioni di una donna sarebbe magnifico. Ogni tanto noi siamo sordi invece. Sì. E voi no, voi avete sicuramente una propriocezione maggiore, siete molto più sensibili, ma avete proprio un discorso cerebrale diverso al nostro. Avete uniti l'emisfero destro e il sinistro, noi abbiamo solo quello razionale, sì, e poi abbiamo anche l'altro, ma è staccato. È staccato, questo scientificamente studiandolo, sì, succede anche questo, per cui abbiamo dei limiti e confini, come dice Lucio Battisti. Purtroppo. Vedi adesso. Lo sai che è molto interessante questa molto, cosa, no, Cristian? No, mi sta incuriosendo, anche perché è vero, noi spesso ci affidiamo troppo all'istinto e l'istinto qualche volta ti danneggia. Sì. Diciamo che un po' di tecnica sarebbe necessaria per lavorare, sì, meglio e per stare meglio, perché ripeto, io negli anni non ho avuto grossi guai, però 3-4 volte, mm-hmm, delle cose, sì, sono successe. Ripeto, no, prima ho citato una cordite, mm-hmm, siccome poi ci lavoravo sopra, sì, è durata 6 mesi, sì, e sì, andavo, sì, a botte di cortisone, di aerosol, di roba. Il cortisone diventa terribile, sì, perché in realtà sì, può essere un primo intervento, esatto, se devi fare, però dopo continuiamo a lavorarci, stai male comunque, non lo senti, eh sì, perché quello non ti fa sentire il dolore, tu, esatto, lavori, proprio quando torni a casa, come stai le infiltrazioni malissimo per i calciatori, eccetera. Esattamente, e allora hai un sito per cui, del quale io posso, so dove, sì, trovarti, ma sì, la, sì, gente come ti cerca? Intanto dei professionisti anche, www.eleonorabruni.it è il mio per sito, esempio, personale, oppure ho il sito dell'associazione, è www.associazionevoices.it, ed è l'associazione con cui proponiamo tutta una serie di eventi didattici. Potrei tornare qui tu con i tuoi colleghi che hai nominato prima. Ma molto, sarebbero contenti e noi saremmo veramente felici che Cristian con me, tanto fra poco faremo due questa trasmissione. Erika Biavati per il fischio, per Matteo fischio. Belli ed Enrico Di Lorenzo per la parte invece che riguarda il fischio, sovraglottico, bellissimo. E poi Franco Fussi, che in questo senso è un po' il nostro punto di riferimento assoluto. Io mi porto pure un medico amico, che è Diego Cossu, è stato il primo chirurgo che conosco molto bene, del nord, sì, che sì, era un fratello, lui lo chiami, arriva da Torino, bang, arriva, cioè, due secondi, usciamo da qui, sì, trasformati, sì, tutti, un strillo che siamo arrivati alla fine dell'intervento, quando finiva 30 secondi, ma io il traffico lo volevo ancora più po', vabbè, ma falla finita, dai, deve slegarsi di più, ma no, faccio moltissima difficoltà a trovare doppiatori giovani tra i 10 e i 18 anni, per esempio, ma non è che sono tutti anonimi, no, ci sono anche bravi, sono i figli di Carlo Valli, per esempio, sono, ma giovani, sai, bravi. C'è anche mia figlia lì fuori, figlia, che ha fatto un sacco di cose, il problema è sempre quello che racconto ogni volta, purtroppo devi essere un bambino di Roma, è difficile che da Pescara, visto che insomma io vengo da quelle parti, qualcuno ti possa portare a fare un turno di doppiaggio a 11 anni, un po' perché ci i tuoi metti genitori, benzina. Che, ma a parte che i tuoi genitori magari fanno un altro mestiere, nemmeno immaginano che esista il doppiaggio, e comunque è proprio logisticamente complicato. Quindi sono tutti il doppiaggio è a Roma, di Roma, come la moda è a Milano, insomma, è sicuramente è legati a famiglie che fanno questo. Dobbiamo mestiere. Chiudere, che Valerio sta facendo i gesti rapidissimi. Eleonora, ti strappo la promessa, senti subito i tuoi colleghi, devi tornare, tornerete, staremo insieme ancora di più. Prometto. E ci divertiremo. Va bene. Grazie mille. A tra pochissimo con l'amico Alex Britti, a tra poco. Grazie. Voice Anatomy. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Voice Anatomy. Bentornati signori Voice Anatomy. Ci ha raggiunti l'amico Britti con un bol caffè. Eccomi qua. Allora, visto che stai bevendo il caffè, cioè, abbiamo una canzone per introdurlo con i caffè o sbaglio? Certo. Visto che lo stai assaporando. Questa è la mia firma o la mia condanna, non lo so. Beh, ma perché stai prendendo il caffè? Volevo cominciare un altro fatalità modo. Fatalità, hai cominciato col caffè. Questa è la chitarra magica di Britti, che lui è un chitarrista. Da quando ho scritto questa canzone nel 2003, ho fatto Sanremo, ho avuto per fortuna successo. Tu calcola, dal 2003 ogni volta che entro in un bar 7000 caffè. Caffè. Solo uno. È vero, una quindi cosa fai che non ci uno pensi. Nella vita, mediamente, un paio di volte al giorno entri in un bar, no? Quindi dal 2003 ho 13 anni. Dai, l'anello che ti suona. Inizia a suonare. Lui suona mentre parla, sta suonando. Ma senti che intro di chitarra. 7000 caffè. Li ho già presi perché sono stanco di stare al volante. Vorrei arrivare entro sera da te. Che aspetti me. Vabbè, ma abbiamo quello nel vero. Il castello lassù. Abbiamo quello vero. È rimasto ancora. Vai. Balcone vestita di blu. A freddo non riesco, dovrei. Allora c'è Eleonora. Si chiama Bruni, sì, mi sono arrivati dei messaggi. Eleonora Bruni, il cognome, sì, eleonorabruni.it. E potete informare, ma tornerà, perché questa vocalità estrema è bellissima, Alex. Sì. Tu stai sentendo mentre... Sentivo mentre arrivavo in macchina. Ma il fischio della laringeo. Il fischio laringeo, lo conosci? Sì. Lo usano anche un sacco nel blues, si usa quando non hai voce, vai su, che a un certo punto non so come dirlo tecnicamente, però ai fini pratici quando lo fai è come se vai talmente su che spacchi tutto, sgrani tutto e entri dentro un canale nuovo d'aria e escono quelle note lì. Cioè, invece di arrivare al lirico alto, pulito, eccetera, lo bleffi con... Sì. C'è un punto di rottura delle corde vocali dove senti aprire punto, sì, dove accade un'altra cosa proprio, assolutamente sì. Me lo rifai il fischio laringeo? Sentite questo fischio laringeo, Britti. Ecco, questo è il fischio laringeo. Che te capita spessissimo di farlo poi. Sì, ma non quando canto, in privato. Vabbè, non vogliamo indagare. Invece Cristian Iansante, che voleva salutare definitivamente. Senti come batti la batteria e continua a suonare esattamente. Poro, che si sente tutto. Ma guarda, i Britti è come i bambini, vabbè, una cosa... Ma posso fare una domanda ad Alex? Sì. Perché questa cosa io me la sono sempre chiesta. Perché 7000 suonava 7000 bene? Perché suona bene, sì. Esatto. Perché è un modo... Perché 7000? No, perché noi romani, quando dici, per dire, ho preso già tanti caffè oggi, sì. Dici, vuoi un caffè? No, grazie, ho già preso 2000 oggi. 2000, 3000, che è un modo di dire. E quindi io volevo esagerare. Per esagerare ancora di più, tutti dicono 2-3000 e io 7000. Ecco. Volevi salutare tu, Cristian? Volevi andare via definitivamente o vuoi rimanere qui ancora? No, finiamo, dai, la trasmissione, no, insieme, dai. Gnafa, Alex, devi suonare. Sentite, non ha portato la chitarra, io mi aspettavo qualcosa. Non c'è una chitarra qui in studio. C'è classica acustica. C'è un dottore in sala, scusami, esatto. Dai. C'è una chitarra. È uno scandalo, almeno l'ukulele dentro una radio seria, un'armonica a bocca, un flauto. C'è un violino, dice Valerio. C'è un violino, buono. Tienilo lì, va bene, grazie. Avessi mai trovato una cosa utile per questa trasmissione. Una, soltanto le cose che riusciamo noi a scaricare. Alex, tu sei un grandissimo della chitarra, si sa questo. Tu hai cominciato a 8 anni a suonare questa

capito? So, un po' come anche le cose che facciamo giapponesi, è difficile tradurle, perché c'è molta fisicità proprio dentro il suono. Il suono gutturale, sembra che ti ha mandato a quel paese invece detto esatto. Che ti amava tanto. Ti amo da impazzire, ma invece sembra che ti abbia mandato a quel paese. La state cercando lacrimente dall'altra parte del vetro. Che ti ricordi, a proposito del 98, che ti ricordi del concerto milanese di B.B. King? Che è successo lì? Il primo era un concerto al Teatro Smeraldo di Buonanima, Milano. Che adesso sì. È Italy. Sì. Buonanima. Sì. Abbiamo perso un teatro, acquistato. E dovevo fare, era una sorta di prova del 9, perché io stavo per entrare in Universal, era forse uscita da una settimana. Questa canzone solo una volta in radio ed era un po' una scommessa perché gli Universal dicevano vabbè, ma questo non si sa, non ho capito se è un bluesman, uno che fa jazz, oppure se è deciso di far pop e vuole fare, quindi non sapevano, poi non mi avevano visto in action, come si dice, come al solito, ma vabbè, questa è la storia, suonare, quindi ho detto vabbè, allora facciamo una cosa, facciamolo suonare prima di B.B. King allo Niente, Smeraldo, così l'apertura, il esatto. Tuo punto di riferimento, ma secondo me era un po' che dicevano vabbè, facciamogli fa sta cosa così ce lo togliamo d'adorno, esatto. Da che palle, vero? E praticamente tu immagina il pubblico milanese imbestialito per mezz'ora di ritardo, che invece che le 9 erano le 9:30 di sera, mm-hmm. E a Milano mezz'ora di ritardo e mezz'ora di ritardo, finalmente si spengono le luci e invece che B.B. King arrivo io da solo con la chitarra acustica. E quindi ho rischiato il gatto. Linciaggio, no? Sì. Il gatto morto come in uno spettacolo. E invece ho detto, li ho presi un po'. Ho cercato di prenderli con la simpatia, ma con l'accento romano, sinceramente. A Milano era un po' più difficile. Sì, diventa peggio. E loro ha detto, vabbè, qui c'ho soltanto una chiave di accesso. Mi sono seduto e ho iniziato a suonare blues. Piano piano mi sono azzittato e ho cominciato a fare un po' di virtuosismi. E me li sono piano piano presi, poi ho fatto quattro canzoni e me sono andato con gli altri, con tutti che gridavano bis bis, che bella soddisfazione. No, adesso tocca a Bibi, io tocca a Bibi, sì, sì. Anche perché si erano fatte le 10 ormai. si erano fatte una certa, però certo, e poi conquistarli così una cosa con l'arma migliore. Due mesi dopo è tornato sempre B.B. King a Milano a fare un altro concerto, mi hanno richiamato a rifare l'apertura dicendomi che mi aveva richiesto lui direttamente. E io ho detto, vabbè, questa è un'altra delle tante cazzate che dicono agli artisti, no? Per così, sì, per compiacere la calla. Esatto, quindi ho fatto, vabbè, sì, accetto. Ho rifatto l'apertura, bellissimo, eccetera. Un anno dopo, Pavarotti and Friends. Oui. Io suono con Joe Cocker e Pavarotti, entriamo sul palco. Io, Joe Cocker e Pavarotti, sì, mi fa ridere, ridere, vero? Sembra chi io, è quello vestito di bianco Filippo vicino. Filippo, Barry White. No, ma mi fa ridere, bellissimo, anche tre persone dislocate. Sì, non maniera... solo, e mentre passiamo nel tunnel che porta sul palco, incrociamo B.B. King. Ehi. E praticamente c'era Joe Cocker che si ferma a salutarlo e mi presenta. Gli dice, lui è Alex, un chitarrista italiano, e lui mi ha detto... Ah, ma io ti conosco. Tu hai aperto l'anno scorso, hai aperto i concerti miei a Milano, sono brevissimo, ho chiesto io di aprire la seconda volta e ogni volta che quindi non era una bugia. Quindi non era una bugia. Ed era l'unica volta che un discografico ha detto la verità. L'umiltà. C'è la targa lì su. Ha detto la verità. Ma pensa all'umiltà dei grandi che si accompagnano, sì, con altri, sì, grandi, cioè il tuo successo non può essere l'insuccesso di un altro. Se vai su quello rischi il no, tuo non la c'è sofferenza, la depressione tutta la vita. Che cos'è? Il croato. Attenzione. Bilaje noć, bile su rože i nikad toplega na vrhu moje kože. Bila je želja, daj budi vas skupaj, lahko je igra, a vse eno mi zaupaj. I ti si dala roko moji roki, da jo pogrem tam, kjer stikajo se boki. Bilo je enkrat, però adattato bene, con le rime, sì, giuste, sì, sì, sì. Sì. Ma parla dello stesso argomento poi, ah, o hanno cambiato tema? Col croato, questo slang qui del croato non lo capisco, non lo io parlo l'altro. L'altra parte, sì. Alex, sembra che canti in dialetto veneto invece che canta in spagnolo, che bravo, che forte, ovviamente grande ironia. Sì, infatti è buffo. Abino, il fischio laringeo della Bruni sembra l'ululato orgasmico della professoressa di educazione fisica nel mitico Porchis. Ciao da... Ma trovano delle... sono veramente dei pazzi estremi. Lo spagnolo è aspro e gratta la gola. Ma infatti non conviene mai fare per dopo pranzo, non conviene mai prenderlo. Insomma, c'è stata questa bellissima esperienza, ma è una sublimazione perfetta. Cioè, tu che suoni prima di Alex Britti, è come se tu, come hai trovato tu con i tuoi Pooh, perché tu sei innamorato dei Pooh, sei riuscito a recitare e a farci recitare. Beh, diciamo che io mi sono liberato finalmente dei Pooh facendo quel lavoro eccezionale dove voi tutti, fra l'altro, insomma, avete partecipato e mi avete aiutato. Alex non lo sa, ma io, insomma, ho trasformato 28 testi in un film di 1 ora e 40 dopo la morte di Valerio Negrini, facendo una cosa veramente unica. Ma con rumori, situazioni proprio filmiche, e elaborando le canzoni, mantenendo, diciamo, come idea le melodie originali, ma trasformandole in colonne sonore. Lavoro molto importante. Con le voci recitate, le canzoni recitate. Dove i personaggi parlano, cioè interagiscono come se fosse un film. Non restare chiuso qui, pensiero. Capito? Stiamo a questi livelli qui, insomma, un po' più elegante il tutto, capito? Però dicevo, è stato un lavoro liberatorio. Sai, come quando hai un problema, vai in analisi 10 anni e te liberi. Tu, però, adesso che si sono riuniti, come stai? Io li seguo in maniera distaccata. Non sei più uno stalker, allora? No, non sono più uno stalker. Però, insomma, riconosco che questa reunion è importante, perché dopo 50 anni festeggiare insieme una storia così lunga, unica, credo, in Italia, hanno con un gruppo musicale, hanno fatto bene, insomma, sia una cosa dovuta e doverosa. Senti un po', poi andiamo al secondo album, La Vasca, che, insomma, che poi abbiamo avuto il piacere di giocare e prendere in giro con la prima ditta in un centro estetico. Dice, c'è una vasca libera, dice, no, ma è occupata, c'è un signore, c'era lui dentro con 20 fanciulle che suonava in smoking La Vasca, che noi abbiamo soltanto così per accompagnarsi in questa chiacchiera sua. C'è sempre un intro chitarristico, senti che groove. Questo è stato proprio un divertimento, questa canzone, eh? Eh sì, il video soprattutto. Sì, il video era molto divertente, il videoclip era molto divertente. E La Vasca era il 2000, sì, era il secondo singolo del secondo disco. Esatto, e partiamo. Il secondo singolo era La Vasca? Sì, perché il disco è partito con Una su un milione. Ah, vedi? Partì con Una su un milione, e poi questa qui uscì il 1° dicembre. E com'è la scelta di partire invece con una cosa un po' meno popolare? La Vasca era di facile non presa. Non lo so, sono queste intuizioni un po' da matto, se vuoi, però... Che tu non sei, poi sei uno così rilassato, esatto, tranquillo. Uno che tranquillo, non... esatto, sì, poco istanziale, un po' come Christian, se ne è molto fermo. Era tutto pronto, stavamo per uscire, tipo, credo che una settimana dopo partivamo con le riprese del videoclip della Vasca. Una volta io vado a Napoli, faccio un concerto da solo allo Stadio San Paolo, bellissimo proprio, chitarra e voce con lo stadio pieno di gente. Quindi torno abbastanza gasato, tardi, poi siamo andati a mangiare il pesce, poi torno a casa e mentre me ne sto per andare a dormire scrivo in 20 minuti Una su un milione. Tutta, melodia, testo, tutta quanta. Infatti io credo che le canzoni, certe volte anche le cose migliori, nascono veramente di getto. Lo dicono un po' tutti i grandi che come te. Avendo dici, com'è nata così, uno per studio sbaglio in casa, scendo, quindi non vado a dormire, vado a farmi il provino. A un certo punto, a mezzogiorno, avevo il pezzo già provinato, pronto, con l'arrangiamento, chiamo, sveglio il pianista di notte, via a casa mia. All'infernetto. Corri, vieni, c'ho il pezzo pronto. Chiamo il mio manager, gli dico, dobbiamo cambiare, ho scritto una bomba, dobbiamo cambiare singolo. Dice, vabbè, ma che sei matto, è pronto, abbiamo già fatto gli ascolti con l'era, tutto pronto. Faccio, no, dobbiamo cambiare singolo. Faccio, vabbè, ma mo ai discografici chi glielo dice? Faccio, io lo dico io, non c'è problema, prendo, attacco, chiamo un discografico. Il discografico mi dice, Alex, ma che sei pazzo? Una su un milione, no? Una su un milione. Non si può, ormai è tutto pronto, c'è l'uscita, il videoclip. Faccio, no, la produzione, io proprio, no, non mi frega niente, no, se esce, ho scritto questo, è fortissimo. Se non esce più niente. Discografico dice, vabbè, io domani mattina vengo a casa tua. Lui, il giorno dopo, alle 10 di mattina, da Milano, era a casa mia. Ammazza. E la viene a sentire. Viene in studio. Folgorato. Viene lì, l'ascolta una volta. A finire, poi mi fa, me la fai riascoltare. Io gli dico, neanche ci diciamo niente, io la faccio riascoltare. E lui mi dice così, Caccia, quanto sei matto. Come famo mo a cambiare tutto? Come facciamo ad avvertire le radio? Dai, sbrighiamoci. Dobbiamo farlo, dai, chiamiamo. Si è messi a chiamare tutti. Abbiamo fatto il pezzo, un disastro. Che adesso nel prossimo blocco ci sentiamo, perché Valerio ce l'ha sicuramente. E allora ci salutiamo. Sempre un minuto, vero Valerio? Un minuto e torniamo subito in compagnia di Alex Britti, e c'è ancora Eleonora che ci sta facendo compagnia insieme a Cristian. Ma rimaniamo insieme così con questa formazione, col 4-4-2, anzi 4-3 questo, fino alla fine di Voice Anatomy. A tra poco! Voice Anatomy. Eccoci di ritorno. Come promesso, parlavamo di questa avventura del primo singolo, doveva essere La Vasca, perché era, sì, insomma, un pezzo forte, e l'ha dimostrato, visto che l'album poi ha venduto più di 1 milione di copie, insomma, venduto, non per fare i conti in tasca, ma insomma è andato molto molto bene. Era un periodo, ripeto, che ancora il disco, sì, sì, si vendevano ancora i dischi. Beh, anzi, che adesso è uscito il vinile, che bella cosa. 1 milione hai venduto? Beh, sì, alla fine sì, perché sì, ne abbiamo vendute 4,50 lì per lì. Subito, poi sai, ci sono tutte le riedizioni, poi 2 anni dopo esce con Sorriso e Canzone, fai altri 200.000 pezzi, poi esatto, negli anni comunque, anche se diluiti, non abbastanza da andare in classifica, però ne vendi un po' meno, però continua, è uno di quei dischi che continua sempre a vendere, quindi capito bene. Ma dei pezzi, sì, l'abbiamo trovata una su 1 milione, ce l'abbiamo ovviamente, capito, abbiamo bene, tutto. Sì. Fosse capito anche 1 euro a disco. Vabbè, ma non era per fare i conti, Cristian, come sei, vedi come sei terreno, come sei, sei uguale al tuo personaggio di Trainspotting qui. No, non è vero, sei all'opposto. Eccola, 1 su 1 milione. Nata all'improvviso. Accettami così, ti prego non guardare. Nella mia testa c'è un mondo da ignorare. Voglio che tu sia mia complice discreta. Accettami e sarai la mia bambola di seta. Accettami e vedrai. Una lalabia, una lalabia, una lalabai. Sì, una ninna nanna. Che devi cominciare a cantare a un nato, a un primo nato, eh? Vabbè, ma alza, per qualche anno. Se preferisci, accettami, ti prego, dimmi che ci riesci. Non ho detto mai di essere perfetto. Se vuoi ti aiuto io a scoprire ogni mio difetto. Se ne trovi di più, ancora mi sta bene. Basta che restiamo ancora così insieme. Amo, amo qualcosa che si muove. Beh, è vero, questa arriva di getto. Normalmente arrivano questi pezzi così, come Avrai di Baglioni eccetera, quando c'è qualcosa a cui dedicarlo. Perché ti è venuta fuori questa cosa? È stata la gente che te l'ha provocato quella sera, quell'emozione, quell'empatia, o è stato un pensiero che magari ti è arrivato, che volevi dedicarlo a qualcosa, a qualcuno? Una serie di cose comunque tutte positive, tutte mi era arrivata una grandissima botta di positività, di allegria, di serenità, di stare bene. Erano anche gli anni giusti, insomma, a me era successo tanto. Dopo tanto mi è successo tanto, tutto insieme. Ma quindi era un periodo, insomma, che stavo proprio in brodo di giugio. Stai tirando le somme bene, nel senso, dopo tanto fatica, perché poi continua, la fatica deve continuare. Dici, batti, sì, il ferro, sì, sì, sì, ma devi battere sempre sto ferro. Quando sei freddo devi battere, il ferro diventa caldo. Quando è caldo, certo, continua a battere. Nella vita devi battere. Devi battere, ecco. Sì. Sì, può essere una metafora ottima, levando le strade. Quello lì era un periodo molto, molto divertente. Facevo un sacco di cose, stavo preparando il secondo disco, che era anche, però percepivo una sorta di scommessa. Perché poi sì, adesso sono passati anni, è andata bene, quindi tutto bene. Eri un centravanti che toccava la palla e segnava, come capita ai giocatori. Esatto, sì, però appunto poi devi continuare a segnare, devi continuare a stare in campo. Cambiare le regole. Iniziare, arrivare... Arrivare è difficile, no? In tutti i campi. Sì. Arrivare è difficile, poi rimanere è difficile almeno quanto arrivare, se non di più. E per questo lo diciamo proprio. Quindi, prima, io auguro sempre una bella batosta agli inizi, grande asprezza, grande durezza, perché sai da dove ricominciare qualsiasi cosa accada. Invece c'è gente poi, ormai, capito, con certe scorciatoie, quindi, arriva subito quel, e poi finisce. Quel periodo c'era anche, sì, una grande gioia, tanta positività, però appunto anche la... Il non sapere, ok, il primo disco, fino a qui tutto bene. Conosciuto B.B. King, ho suonato con Joe Cocker, ho suonato con Ray Charles, ho suonato con Pavarotti, tutto bene. Con ora, Ray però... Charles hai lavorato con il grande, sì, Ray Charles? Sì, sì. Ma che bella cosa. Io ho avuto solo il piacere di doppiare il film, doppiavo Ray, ma in grande, okay, difficoltà. poi qualcuno mi ha anche detto: Pino, ma hai anche cantato le canzoni? Ho fatto: certo, ci mancherebbe, ma di come viene in mente? Che cantavo? Giorgia, in inglese, con Giorgia nella perfetto, mia mente, Giorgia nella mia mente, non si può fare, dai, ma come ti viene in mente? Comunque, sì, con Ray Charles, sì, sì, cioè, insieme lui cantava, tu suonavi, tu cantavi, lui cantava. Certo, che io spicciavo casa e lui puliva la macchina. Vedi quanto è romano, io spicciavo casa e lui, no, nel senso, magari hai fatto un assolo di chitarra durante. Abbiamo suonato, pezzo... abbiamo fatto, era ospite a Sanremo, ha cantato Volare di Modugno in inglese, la versione americana, con un arrangiamento funky fatto apposta. Certo. E io suonavo la chitarra, nonché ho fatto l'assolo di chitarra. Esiste questo pezzo? Si trova da qualche parte? Su Google, cioè su YouTube, scrivi. Lo so che fa ridere, però scrivi Ray Charles, Alex Britti, esatto. Guarda, dovrebbe stare vicino a Scorsese in segno. Dovrebbe essere la stessa. Il video dopo è quello mio con. Oppure, guarda, all'inizio ti esce Brando in segno, perché c'è stato un momento su Fronte del Porto dove noi abbiamo duettato. E guarda un attimo se trovi questa situazione. Ma Ray Charles ha cantato pure quella canzone Toto Cotugno, non so se era lo stesso anno. Non credo era lo stesso anno. No, quello lì è molto prima. Quello era prima, e era una canzone completamente diversa. Cioè, era quella. Lo ricordo perché era pazzesca. Quando cantò con Toto Cotugno, io ero ancora in Olanda, abitavo in Olanda, lavoravo lì. Ma perché voi dovete sapere che a casa c'è mai stato? No, non stato parecchio in giro. Chitarra, l'immagine, sapete, dietro le macchine l'adesivo di quello con la chitarra. Bravo. Sempre io una cosa ti voglio chiedere, perché nel mio immaginario, sin da quando ero bambino, il cantautore era quello con la, adesso ci sono altri supporti, però all'epoca con la matita e un blocchetto. Cioè, ti è mai sfuggita una frase meravigliosa perché non avevi da scrivere? No, o una melodia fantastica che incevi la chitarra e poi non te la sei ricordata? Le melodie non me le registro, né me le scrivo, me le appunto mai, perché penso che se è forte me la ricordo. Ah. Se se n'è andata vuol dire che si poteva anche lasciare andare. Ah, ecco. Io credo in questo. Vive così. E nelle parole è un po' più complicata, però anche se non ricordi la parola precisa, comunque io scrivo i concetti. E quindi poi spesso le parole precise possono anche essere diverse tra loro, l'importante è quello che esprimi. Anzi, spesso anche in concerto, magari vado a cantare una canzone e mi dice, la gente mi dicono: ma perché hai cambiato le parole? Anche durante. Le parole. Cazzo dici? No, è la stessa. No, poi vado a sentire la registrazione. Hai ragione. E in effetti ho cambiato però dicendo la stessa cosa, quindi mi sono reso conto che io canto perché riesci a i concetti. Musica. Quindi quando pensi a un concetto forte... Anche ti resta, se è forte ti resta. Su Volare non hai cambiato il concetto, tipo andare più su, stare nelle nuvole. Stai cercando? Stai trovando? Sì, ma si trova subito. Si sente malissimo? Ray Charles, ma Britti si sente bene. È su un'altra pista. Forse guarda, su YouTube mi sa che è caricata da un sacco di utenti, quindi basta che provi a cercare. Vale, dobbiamo che dirti qualsiasi cosa. Ti prego, vi prego, continuate la trasmissione per altre due ore. Siete tutti fantastici. Cioè, caro Pino, oggi non devi correre a teatro. Lo sanno che è stato per l'ultima domenica. Sono fuggito a teatro, no, ma non dipende da me. C'è un palinsesto e sta andando anche molto bene. Lo sapete perfettamente. Gli ultimi ascolti di Radio 24 in toto sta avendo uno dei successi maggiori di tutta la storia di Radio 24. È bello farne parte, come far parte di un bel percorso, e devo dire grazie anche al direttore che ha voluto una domenica diversa dalle altre, che la domenica era un po' abbandonata forse a se stessa, allora hanno cercato di rendere la domenica diversa, e c'è fra il calcio, fra noi, fra l'amico e il collega Enrico Ruggeri. Sì, che ogni tanto mi sento ci vedo storie, quella bella vociaccia che c'ha, meravigliosa. Siamo un po' gemellati io e lui. Cosa? Tu sei tranquillo come il nostro tecnico del suono. Siete gemellati perché... Ah, no, lui pensavo... è dell'Inter e io per quello. Della... Ah, siamo okay. Gemellati in quello. Non abbiamo, non abbiamo mai... una radio ostile, vedi, interisti, Cruciani, no, no, pure no, amico tuo, è vero, Cruciani uguale, ma c'è Valerio che comunque okay. Che è tranquillo, support, ma io per quello sono venuto. Sei venuto per Valerio, certo. Hai sapere che il tecnico del suono, che poi è l'elemento fondamentale dei tuoi, del tuo lavoro, è il tecnico, l'ingegnere del suono è fondamentale, se vai d'accordo con lui vai d'accordo con tutti, e poi lui ha sempre viaggiato davvero. Ah, eccola. Lo so, però solo la testimonianza, un attimo, sentiamo. Questo ovviamente è Ray Charles. Sì. Sì, dico solo la pronuncia. No, ma per sentire me devi andare a fine canzone che c'è da solo. è quello che sale sul palco con prepotenza perché non era previsto. Esatto. E sale là sopra con grande veemenza. È bellissimo. Lui è un grande viaggiatore, davvero. Lui ha vissuto. Non c'era mai quando uno diceva: ma c'è Britti, sta fuori, sta in Olanda, sta in Inghilterra, sai, che poi lui si armi e bagagli veramente e fugge, non prende l'aereo, bisogna dirlo. No. Non siamo mai riusciti fino a fargli prendere sempre l'aereo. Sempre treno, macchine, non mi piace l'aereo. Gli mette l'ansia. Ma perché? Quindi ore di nave per raggiungere l'America? Che è la tua. Non ci sono mai andato. Vedi? No. Cioè, io credo che loro ti abbiano invitato qualcuno di questi signori che tu hai conosciuto, con cui hai condiviso dei momenti importanti. Spesso sono anche delle buffe telefonate. Continue anni, almeno un paio di volte, richieste di questa concerto. È una cosa abbastanza privata, non so se la racconti o che, ma insomma ci tengo a dirlo perché. Non, perché ho paura, sono cose non razionali che non so spiegarmi. Chiunque noi ha paura dell'aereo, ti dicono l'aereo non cade mai, eccetera. È vero, perché lo devi buttare giù veramente. Io mi sono tranquillizzato facendo i voli dentro quando si poteva fare, adesso non si può più avvicinare. Però stando vicino ai piloti capisci che veramente devi veramente tu decidere di fare qualcosa di sbagliato, e invece in macchina uno pensa sempre può salvarsi eccetera, se leggi il bollettino del weekend e invece vedi che gli aerei quanti se ne alzano al giorno, cioè, beh, io ti sto a fare tutto questo discorso. Sì, però ha ragione, è una roba irrazionale, perché se vuoi scendere poi scende, certo. Via stanzia è un macello. C'è presente quel poster in bianco e nero degli anni 20, credo, di quella foto a New York dei muratori che mangiano il panino quel palo a 700 metri d'altezza sull'Empire Style Building? Vagli a dire che lì non succede niente, tranquillo, mangia il panino, va lì con loro a mangiare il panino. No, lì io soffro dei vertigini e mi tremano le gambe, è quella cosa. Io già io non posso giocare ai videogiochi perché quando precipita quello a me mi prende l'ansia, aumenta proprio i battiti cardiaci, quello è proprio una cosa fisiologica, non vado sulle montagne russe. Sì, l'altezza dà fastidio anche a me, anche io soffro di vertigini. Però quando cambi il punto di riferimento la vertigine non c'è quando più. Quando volavo non soffrivo di vertigini. Ma tu volavi in che senso? Sì, io volavo, prima volavo regolarmente. Che i primi anni che stavo in Olanda volavo continuamente. Mi è scattata, non lo so, la paura. Forse la famiglia, i figli, l'ansia, i quali stai dedicando tutta la tua vita. Io devo cominciare a fare due cose, Alex Britti, lo dico qui, di fronte a qualche centinaio di migliaia di persone. Prendere l'aereo e fare un figlio. Ma non con me, cioè, non posso averne. Io l'ho detto già più di una volta. Dobbiamo anche qui interromperci due secondi. Vabbè, però già una radio in cui si può chiacchierare un quarto d'ora di seguito non è male. Per un minuto, vero? Non un minuto. Va fra poco. Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. Vi presenta. Voice Anatomy. Che bella domenica integrata, tanti messaggi, oggi veramente siete tantissimi e molto attenti. Pino insegna a far scorrere una buona domenica, grazie Cosimo, mi fai ridere, me prendi in giro e ti prendi in giro in modo così simpatico, pulito e ingenuo. Grande Alex, grande Cristian, grande Leonora, bene, ti prego eccetera, vabbè, grande Pino, il nostro padrino, aiutami, speravo di piacerle, padrino, noi siamo sì, ma pagamo chi tocchina domani. Baciamo le mani, Don Pino. Vabbè, io ho solo ridoppiato De Niro nel Padrino, ho avuto soltanto questo piacere di sfiorarlo lì e di dire finalmente ho fatto una proposta alla quale non potrei rifiutare. Senti, questo non è un attimo importante, sono due ore e mezzo importanti, ma io ho un pezzetto di quella bellissima canzone di Sanremo, voglio ascoltarla dell'altro anno. Guardami, toccami, stringimi, regalami un istante. Bella, tra quelli nostri più intensi, un attimo importante. Bella. Molto bello. Fammi sorridere, abbracciami, rendimi felice. Voce sincera, come Leonora. Quell'uomo che ama. Totalmente. Ma che non lo dice. Estrema nella sincerità. Le parole sono come le nuvole quando ci soffia il tempo. La rap all'inizio e poi melodica. Si trasformano, diventano mille e se le porta via il vento. Quel silenzio che rompe nel buio mi rende felice. Come un pittore finita la tela, sporco di vernice. Sul tetto del mondo. Ma a parte questa, c'è l'ultima canzone dell'ultimo album che piace tantissimo, anche perché è una dedica importante. All'inizio della trasmissione qualcuno ci ha parlato della violenza, le donne, eccetera, la voce che è silenziosa, c'è questo perché Sì. Come nasce questa perché? Nasce per estrema sensibilità al problema, ovviamente, come prima cosa. Perché è inammissibile ancora sentir parlare di certe cose. E poi l'anno scorso è successo un fattaccio che ho letto sul giornale, però poi ne ho sentito parlare in zona mia, quindi nei bar, in trattoria, così se ne parlava. E quindi ti rendi conto che certe cose sono molto più vicine di quelle che credi, perché finché le leggi sul giornale, se è successo a Torino o in Cina è la stessa cosa, certo. Non è intorno a te. Quindi quando ne senti parlare in zona, quindi ho cominciato, sai, ad essere un po' più sensibile del solito, andare a vedere gli articoli, a cominciare a capire perché, per cosa fanno le leggi. Hai dato voce a queste voci silenziose, come diceva il nostro amico Vincenzo, sì. Enrico Sarnelli, proprio comincia la trasmissione, partite con la trasmissione. Purtroppo esistono anche voci silenziose e represse, quelle delle donne vittime di violenza tra le mura domestiche, eccetera. Sì. Fatalità. Chiudiamo invece l'anno la scorso, trasmissione con questa. Attraverso la strada a Milano, attraverso una piazza, c'è un giardino pubblico con le panchine. Sento quel rumore strano, insomma, molto riconoscibile delle botte. Mi giro, vedo un ragazzo che prende a pugni in faccia una ragazza con un po' brutto. Di teatrino intorno di pubblico, e però nessuno faceva niente. A me è uno spontaneo di saltargli addosso. È e molto fisico, non sapeva, anche bello grosso. Se n'è andato, è scappato ovviamente. E poi io insieme a qualcun altro che stava lì abbiamo accompagnato questa ragazza in un bar, abbiamo fatta sedere. Era visibilmente segnata in faccia e scossa. Agitata, l'abbiamo fatta calmare, abbiamo preso qualcosa di caldo, abbiamo fatta parlare, si è messa a piangere. Ti ha riconosciuto, immagino, anche no, quello. Non mi riconosceva perché era straniera, è straniera. A me mi riconoscerebbero anche. Comunque, vabbè, non volevo mettermi in gara. Insomma, non voleva chiamare polizia, carabinieri, nessuno. Il silenzio. E poi ha detto perché quello lì che io avevo messo in fuga è il marito. Quindi sarebbe tornato. Sì, quindi io poi, insomma. Abbiamo chiamato degli amici loro connazionali, ho accompagnato a casa minacciando l'amico, minacciando il marito, nel senso cercando di tutelarla. Oh, certo. Se questa la rivedo così, ora so dove stai, te vengo a citofonare. Che bello, come i film grosso, veri, i film grosso modo. Però mi ha lasciato questa sensazione di impotenza, perché poi che gli fai? E siccome le denunce per stalking, fino a che non succede poi qualcosa di reale, di pesante, non si fermano, e tante volte leggi sul giornale, era stato detto, era stato urlato. E quindi con la canzone ho cercato di sensibilizzare, noi a volte con mettiamola una canzone questo arriviamo... perché arrivate un po' di più, sì, guarda già come comincia. Sembra un Pino Daniele d'altri tempi questo inizio, sai? Sì, è vero. Vero? Che è un complimento ovviamente. Che lasciano un segno. Quelli che non vorresti mai, sembrerebbe tutto normale, ma qualcosa è diverso e lo sai. C'è una donna davanti un portone, con le lacrime agli occhi, e tu l'hai cercata nei giorni seguenti, ma non l'hai incontrata più. Sono giorni maledetti, di quelli che lo sai solo te. Quella donna ha un segno in faccia e dice che se l'è fatto da sé. Ma nel cuore è una cosa più grande, un segreto che non capirai, un amore violento e inquietante che però non denuncerà mai. Perché? Perché? Quella donna che amavi davvero, ad un tratto l'hai portata via, e la mano che un tempo l'amava oggi muove un'assurda follia. Perché? Stavo sentendola e me la immaginavo cantata da Neil Young. Perché? Cioè, non so. Mi piace. Magari. No, ma sai, se ha questo country. Chiamiamolo, passo un po' il telefonino. Ma guarda, perché. Dopo sai, tutti i nomi che abbiamo fatto adesso ci stava. Sì, adesso eravamo io, Neil Young, BB King, però ci stava. Senti, siamo arrivati alla fine, però c'è lo sport che ci collega con noi. Tu sei uno sportivo e sei anche un tifoso, ovviamente. Onesto. Abbastanza. Onesto come oggi lo siamo no. Un po'. Oggi no. Oggi sei tranquillo, ieri grazie. Sì. Io pure sono tranquillo, gioco domani. Per cui chiamo gli amici di tutti. Eccoci. I convocati. Chi c'è? Ciao, sono Giovanni. E c'è sempre Giovanni. Giovanni. Colui Giovanni che c'è ti porta le buone notizie. Esatto, c'è Cristian Ianzante e c'è l'amica Eleonora Bruni. Allora, che è successo in Serie A che noi non sappiamo niente? Guarda, è successo fondamentalmente che la Sampdoria ha vinto il confronto diretto col Frosinone, il confronto della paura, 2-0, certo. Fernando e Quagliarella. Diciamo che momentaneamente si toglie dai discorsi relativi alla retrocessione, fa un bel passo avanti, mentre l'altra metà di Genova piange, perché il Genova ha perso 1-0 a Verona contro il Chievo, gol di Lucas Castro, e lì in fondo comunque continuano a tremare un po' tutti, anche il Palermo che a mezzogiorno ha fatto 0-0. Però in testa e in coda, eh? Sì, perché questa è una domenica di verdetti, poi tra domenica e lunedì insomma vedremo cosa succederà, sì, questa sera con Juventus-Inter, con Fiorentina-Napoli, ma il paradosso è che potremmo trovarci domani sera alle 23 con 4 squadre in 5 punti per lo scudetto, quindi insomma con 11 giornate da giocare. Il mio amico Britti riprende i colori della speranza, ecco, anche vero, con la Alex? Roma, sì. Sì. Eccolo lì. No, adesso ci fa... stava. Ci sta... Ma si è tranquillizzato, dentro un fuoco, fuori ci stava, non mi interessa più di tanto. Si può fare. Dai, si può fare. Altre situazioni, niente. Guarda, altre situazioni, Udinese Verona 2-0, Badu Terò, diciamo che il Verona è virtualmente retrocesso, Carpi Atalanta stanno per chiudere la loro fatica, mancano davvero pochi secondi, 0-0 tra Carpi Atalanta. Vabbè, io sono affezionato, ovviamente, sapete, a Reia e all'amico Alberto Bollini per motivi. È finita proprio... qui. È finita qui, per cui un pareggio degli amici atalantini, va bene così. Grazie amico mio, buona trasmissione, a dopo. Grazie a te, a domenica prossima. Grazie, grazie davvero. E grazie soprattutto ai miei graditissimi ospiti. Grazie Cristian, che sei rimasto... Ci abbiamo tempo per fare il monologo dell'inizio un'altra volta? Volentieri. Non possiamo farlo? 30 secondi, veloce, senza le pause che ha fatto prima Cristian. Aspetta, parlate. Il foglio, aspetta, dai, mi piace troppo. Gli occhiali e foglio, mamma mia, dai, dove sta? Ce l'abbiamo, eccolo qua, vieni qua, di corsa, dove? Eccolo, veloce. Cristian, è andato, ma c'è la trasmissione, sta finendo. Gli occhiali. Vai, Chris, vai. Dai, tieni. All'inizio, senza le pause. Grazie Britti, grazie davvero. Grazie a te, Pino. Grande, grazie Leonora, tanto ci rivediamo. Grazie. Vai, chiudiamo così, a domenica prossima. Scegliete la vita, scegliete un lavoro, scegliete una carriera, scegliete la famiglia, scegliete un maxi televisore del cazzo, scegliete lavatrice, macchine, lettori CD e apriscatole elettrici. Scegliete la buona salute, il colesterolo basso e la polizza vita. Scegliete mutuo e interessi fissi, scegliete una prima casa, scegliete gli amici. Scegliete una moda casual e le valigie in tinta. Scegliete un salotto di 3 pezzi a rate e ricopritelo con una stoffa del cazzo. Scegliete il fai da te e chiedetevi chi cacchio siete la domenica mattina. Scegliete di sedervi sul divano a spappolarvi il cervello e lo spirito con i quiz mentre vi ingozzate di schifezze da mangiare. Alla fine scegliete di marcire, di tirare le cuoie in uno squallido ospizio ridotti a motivo di imbarazzo per gli stronzetti viziati ed egoisti che avete figliato per rimpiazzarvi. Scegliete il futuro. Scegliete la vita. Ma perché dovrei fare una cosa così? Io ho scelto di non scegliere la vita. Ho scelto qualcos'altro. Le ragioni? Non ci sono ragioni. Chi ha bisogno di ragioni quando ha l'eroina? Trainspotting, a domenica prossima. GTO.